passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Non te l'aspettavi questa, eh? L'ambulanza, l'ambulanza di Renato Zero. Eh sì, è una Marcord, è una vecchia zanzara, è una zanzara di 2 anni fa, di 3 anni fa. Senti, senti. Premio Ambulanza 2012, il primo premio a chi lo dai, al signor Malinconico? Sì, sì, sì, signor Malinconico, già nel nome, mamma mia, omen nomen lì. Che ha fatto il signor Malinconico, sottosegretario alla presidenza del Consiglio? Cosa ha compiuto? Quale reato ha compiuto, secondo te? Adesso non cominciare subito con i reati. No, tu cominci con i reati. C'è un'etica pubblica, la devi smettere nel 2012, devi capire anche tu che c'è un'etica pubblica. Ma io ti ho sentito prima al telefono, volevi già ghigliottinare il signor Malinconico. Che ha fatto il signor Malinconico? Deve dare risposte di queste vacanzine pagate da qualcun altro, da quel signor signore della cricca che sorrideva al telefono temporibus illis nella sciagura dell'Aquila. Come mai questo uomo della cricca pagò la vacanzina al signor Malinconico? C'è poco da essere malinconici, amico mio, amico mio, devi dare spiegazioni. E perché i grandi giornali dell'establishment di questo paese non ne hanno dato notizia, caro Cruciani? Questa tutte domanda... questa sì, perché non si accaniscono i grandi giornaloni come fecero sulla casa di Scaiola e su altre cose ancora nei confronti del signor Malinconico, tranne il Fatto Quotidiano, bisogna dirlo, tranne il Fatto Quotidiano e pochi altri giornalisti, o sbaglio? No, beh, certo, il Corriere, il signor Rizzo ha scritto qualcosa, ma dov'è la Repubblica del tuo amico Scalfari? No, mio amico no, mio amico no. Tuo grande amico, tu vai sempre in vacanza con Scalfari. No, veramente, no, veramente assicuro di no, non sono andato con Eugenio Scalfari. A dialogare con Lio, lui dialoga. Una dei nostri, uno dei nostri amici preferiti è Iva Zanicchi, Iva Zanicchi, mentre appunto ci sono diversi casi che riguardano questo governo, perché non c'è solamente il signor Malinconico, il signor Carlo Malinco. Come fa uno che si chiama Malinconico di cognome, è una tragedia, una sciagura. Sì, ma inventando le malinconiche, gli italiani sono malinconici, lui sta in buca di tre in verità, perché si faceva pagare, pare si facesse pagare, cioè lui dovrà 20.000 euro di soggiorni, 20.000, 20.000 di soggiorno, C'è poco da essere malinconici, c'è da stare, c'è da stare. C'è anche la casa del nostro amico, già indagammo qui alla Zanzara, il signor Patroni Griffi, il ma signor... Sono due, sono sempre due. Ma però tu sei fissato, no, è uno solo, Patroni Griffi. Ah, Patroni Griffi, sì. Perché tu dici che sono due, uno Patroni, l'altro Griffi. Beh, per forza. E dunque per questo la casa, l'appartamento. Ha bisogno di un appartamento grande perché sono i due, il signor Patroni, c'è anche il signor Griffi, entrambi. Sì. Casa con vista Colosseo a poco più di 100.000 euro, già indagammo qui alla Zanzara insieme al signor Cazzola che ha avuto lo stesso trattamento, diciamolo pure, sì, di favore questo trattamento, o sbaglio? Beh, come mai un italiano qualunque che cerca casa a quella cifra la trova a Torbella Monaca e non davanti al Colosseo? Io faccio solo questa domanda, a Torbella Monaca, perché con 100.000 euro si compra una casa a Torbella Monaca, se va bene, al quinto piano, da ristrutturare con tutta la muffa, peraltro, con tutta la muffa. Come mai invece c'è la casa davanti al Colosseo per gli uomini? Perché la casta non è solo la politica, sono anche i funzionari. No, anzi, è marginalmente la politica, i funzionari dello Stato è la vera casta, diciamo la verità. Beh, anche. Non sono troppo d'accordo con te però stasera, non mi piace questa cosa, non mi piace. È ripresa la Zanzara, cari ascoltatori, 800 24 00 24, Iva Zanicchi sul culone della Merkel, senti. La Merkel non ha troppo il fondo schiena, non ha purtroppo, non ha collo. Insomma, c'ha un brutto, c'ha la testa culone, appoggiata dai, sulle spalle, culone, di conseguenza emerge. Scusa, non ho capito, ecco, ha un brutto, giù, l'eufemismo è. No, se a una donna tu dici, ascolta, se una donna, se un uomo a me dice facciamo un caso ma personale, ma tu c'hai un culone, mi arrabbio. Se invece mi dice che bel culone che hai, io sono contenta. Quindi la parola rimane, l'aggettivo davanti è il modo, il modo. Duetto eccezionale all'arena dell'amico Giletti tra Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli sul perché la Merkel ha un sedere un po' ampio. No, voglio ricordare cari agli ascoltatori qui della Zanzara, orfani per un paio di settimane circa, che il titolo più straordinario, almeno secondo me, che ha chiuso il 2011 è stato confezionato proprio l'ultimo giorno, il 31, dal signor Sallusti. Dal signor Sallusti, te lo ricordi tu, te lo ricordi? Come no? È stata la culona. È stata la culona. Quando si parlava del complotto per far cadere Berlusconi con la famosa telefonata mai confermata della signora Merkel a Napolitano, cioè la telefonata c'è stata, ma naturalmente non è stato mai confermato che la signora Merkel avesse chiesto le dimissioni di Berlusconi. Dimmi. Scusa, il giornale guidato da Indro Montanelli, il giornale. No, però adesso non mi fare i soliti moralismi, le solite cose, le differenze. Ma chi se ne frega? È un titolo venuto fuori dall'ingegno. Uno dice, come fai a fare un titolo "è stata la culona"? Cioè, solo Sallusti poteva. Comunque, allora torniamo alle cose serie. Geniale. Piero Ostellino, uno dei miei fari assoluti, il vero problema Cortina, queste bazzecole, queste cose di poco conto, queste cose anche un po' demagogiche, bisogna dire anche un po' dimostrative, eccetera. Piero Ostellino dice il vero problema, diciamo la verità, andiamo al sodo, andiamo al nocciolo, il vero problema è la spesa pubblica. Torniamo, sembra, non è che lo pensa solo Stellino, lo pensa anche il signor Ricolfi e altra gente. Il vero problema è la spesa pubblica e la riduzione delle tasse. Via. Cosa non le è piaciuto di questo blitz di Cortina, Ostellino? Ma non mi piace tutto, cioè non mi piace uno Stato dove il problema principale è la spesa pubblica fuori controllo. E invece si fa credere che il problema principale sia l'evasione fiscale. Ora, che l'evasione fiscale sia una cosa grave non ci sono dubbi, ma non è il problema principale di questo paese. Mi hai tolto il meglio, adesso che mi resterà? Dimmi che mi resterà? Bene, intanto Monti dice Cortina, benissimo, benissimo. Cortina significativa, una tappa significativa nella lotta all'evasione fiscale. Come si sa, il professore è tornato in televisione, questa volta da Fazio. Penso che operazioni come quella, non ho niente contro la magnifica perla delle Dolomiti, possono avere un loro significato nell'ambito di una lotta seria contro l'evasione fiscale. Bene, c'è già un ospite che frigge qui da noi, una persona molto molto benestante, diciamo così, usiamo un eufemismo, che è passato dal PDL all'opposizione prima della caduta di Berlusconi, è già pronto qui da noi, però prima no, non è Rothschild, non è che bisogna essere per forza eredi di Rothschild per essere ricchi, ci sono anche varie famiglie italiane molto benestanti, molto ricche, come sai. Allora voglio farvi ascoltare uno dei capi dei tassisti, so che qualche tassista ce l'ha con il sottoscritto, ce l'ha con noi, perché dicono vogliamo liberalizzare i taxi. Noi su questo siamo molto molto prudenti, invece, perché vogliamo liberalizzare in generale, no, qui alla Zanzara. Però sulla questione delle licenze e dei soldi delle licenze ci andiamo molto cauti, molto cauti. Però il signor Bittarelli, che è uno dei capi dei tassisti romani, e beh, insomma, dovrebbe stare attento quando dice certe parole, Sentiamo. A microfoni spenti, stavolta ci scappa il morto veramente, stavolta va fiamme fuoco tutto quanto, perché no. Sta storia si deve chiarire una volta per tutte. Qui esce fuori la rivoluzione, la guerra civile, sono sicuro, perché poi si arriveranno a noi molte altre categorie. Beh, ci scappa il morto, andiamoci piano, la guerra civile, so che a Milano, alla stazione Linate, hanno bloccato la circolazione, per carità. Uno può fare quello che vuole, però calma. Santo Versace, buonasera. Buonasera a tutti voi, bentornati, ci siete mancati. Come andiamo, signor Versace? Dove ha trascorso queste feste? Lei che è così ricco, così benestante, che può permettersi qualsiasi cosa. Le ho trascorse a Roma, non mi sono mosso da Roma. Ma come, scusi, il leader del suo nuovo partito, che è l'API, è andato alle Maldive? Dove è andato? È andato alle Maldive. Signor Rutelli. Sì, è andato a Palm Beach. C'era anche Casini, c'era anche qualcun altro. C'era anche il signor Schifani. Casini, fra presidenti si sono ritrovati. Ma era il caso, secondo lei, di andare da quelle parti lì? Ma onestamente, la libertà deve essere totale. Vabbè, questo non c'è dubbio. Con i soldi deve andare tranquillamente. Ci mancherebbe pure che pagassimo noi. Una settimana al sole, al mare. Secondo me non è questo il problema. Meglio spendere, no? Meglio spendere. Lei sì, dice, meglio far circolare il denaro. In questo momento è preferibile spendere in Italia. È preferibile spendere in Italia. Diciamo cioè, sarebbe stato meglio se il capo, se il leader del suo partito, il signor Rutelli, avesse speso questi soldi, diciamo, che ne so... Ma perché lui ha bisogno di una settimana al mare. Ma che vuol dire una settimana al mare? A volte fisicamente si sente il bisogno del sole e del mare. Ah, lei dice, Ma assolutamente sì. Assolutamente l'operaio sì. L'operaio cassintegrato però ha bisogno del mare. Vabbè, adesso non fare il solito l'operaio cassintegrato. Che vuol dire? Uno che ha la possibilità di andare va alle Maldive, no? Ma il problema non è mai Rutelli alle Maldive. Il problema l'ha centrato bene Piero Ostellino. Voi dovreste avere certi dati. Ve li do così vi potete registrare e vi potete divertire nei prossimi... Sì, ce li dia, ce li dia. La spesa pubblica nel 2001... Sì, sì. 2001 però, 10 anni fa. Sì. 2001 era 587 miliardi l'anno. Sì. Nel 2011 822. Sì. Nonostante l'euro che ha abbattuto enormemente gli interessi passivi del debito pubblico e quindi abbiamo sperperato una fortuna. Il debito pubblico nel 2001 era 1357 miliardi di euro. Oggi è 1900. Cioè è aumentato il debito pubblico, lo sappiamo noi già. 540 miliardi di euro, quindi in questi 10 anni che vanno al 2000 e 2011, dove la Lega è stata sempre al governo... Pure lei era al governo però. Io al governo sono stato, ragazzi, io non ero al governo. Va bene, l'ultimo è stato eletto con Berlusconi, con PDL. Io ho sempre detto chiaramente cosa bisognava fare, abbattere la spesa pubblica. Questo non c'è dubbio. Ribadisco, voi lo sapete, primo punto metto ancora bene l'evasione fiscale, la lotta alla corruzione. Adesso ci arriviamo. Poi metto la lotta all'evasione fiscale. Scusi un attimo, Versace, però non ne vada la domanda. Rutelli, insieme a Schifani, insieme a Casini, è andato alle Maldive. Lei perché non ci è andato? Dato che... Non è andato perché per motivi miei, io e la mia compagna abbiamo scelto di stare a Roma, di stare tranquilli, di riposare, di ricaricare le batterie. Devo dire che oggi sono tornato in azienda... Ho visto in azienda tutti quanti che abbiamo fatto un break in azienda. Che avete fatto? Abbiamo fatto un break di qualche giorno. Dottore, com'è bello, è ringiovanito di 20 anni. Come vedi, non andare a restare a Roma, tranquilli, mi hanno detto che sono ringiovanito. Vabbè, non è che ho visto, diciamo, Casini, Schifani e Rutelli, non li ho visti deperiti alle Maldive, però, signor Versace. Cioè. No, Schifani, Rutelli e Casini, sono belli abbronzati. Saranno stati benissimo. Belli abbronzati. Ma lei quante volte ci va alle Maldive? Quante volte ci va? Ma io generalmente una volta all'anno spero di andare. Una volta all'anno bisogna fare una puntata. Ma quanto si spende così fare andare alle Maldive? Se va a Natale, a Capodanno, se ci va fuori stagione. A Natale, a Capodanno, quanto Capodanno si può spendere? Quanto hanno speso secondo lei? A Capodanno si spende generalmente il doppio di quanto si spende fuori stagione. Ma quanto avrà speso Rutelli, il capo del suo partito? Ma non lo so, guardi, 5.000 persona, diciamo, 5.000 persone. Una settimana sì, ci stanno 5.000 persone. Però mi scusi, se uno vuole stare al top. Se uno vuole stare al top, alle Maldive, quanto spende? Lei quanto ha speso una volta? Quella lì siamo al top già. È chiaro, poi ci sono delle esagerazioni come andare in alberghi, però lì Palm Beach per onore è già una bellissima soluzione. Pensi che io a Palm Beach c'ero l'anno dello tsunami, ero già lì. Ho visto lo tsunami quando la radio diceva da lontano. Le Maldive spazzate via dallo tsunami. E come da vicino? Lei che faceva mentre c'era lo tsunami, scusi? Guardava. Noi eravamo lì, l'acqua ha attraversato l'isolotto, tutto l'isola, e praticamente le scarpe e tutto abbiamo tradotto galleggianti. Sì, e via. E vabbè, ha visto lo tsunami, è successo pure questo. Sorteggiando champagne. Sì. Mentre invece l'anno scorso ero con la mia compagna. Me lo ricordo, la chiamammo là in vacanza mentre con le gambe a mollo, mi ricordo. Ero ad Aturuga. E là quanto si spende? Dove sono andati? 5.000 persone, diciamo la verità. Beh sì, su quella cifra lì, 4.500 persone. Però 5.000. Si sta al top, il top quello. È il top. Si sta benissimo. Dunque hanno fatto bene secondo lei. Ricordatevi che io, se andate a vedere quanto tasse pago ogni anno. No, ma certo, figurati, ma questo, ma mica un... Parenzo, tu che fai così andare alle Maldive oggi non è come... Cioè, è una cosa normale. Normale no. Ma non è un crimine, Ma io non capito? Sono contro i ricchi, anzi, io non voglio che anche i ricchi piangano, voglio che anche i poveri sorridano. Ecco, però qualcuno ci segnala, riprendiamo dopo il traffico, bella, che però, gli stessi... Anche i poveri sorridano, questo è buono. Sì, che voglio segnalare, come dicono alcuni ascoltatori, che effettivamente i signori Fini, Schifani, Rutelli, eccetera, eccetera, avevano parlato nei giorni scorsi, prima di imbarcarsi, prima di salire sull'aeretto che li portava a mollo con le gambe, avevano parlato di sacrifici, eccetera. Poi 5.000 a settimana. L'ambulanza va mentre la città Bene, bene, 800 24 00 24. Lei è un tifoso di Monti, signor Versace? Assolutamente sì. Sì? Ma cos'è? Ci sarà una cosa che non le piace di Monti? Cos'è che non le piace? Ma no, a me Monti piace a 360 tutto, le piace a 360 gradi. Ma sì, come politico sì. Come meglio politico di Berlusconi, meglio di Berlusconi, no? Ma diciamo che Berlusconi mi era piaciuto all'inizio, poi alla fine abbiamo visto... Ha sbracato, insomma, questo lo sappiamo, ormai è storia questa qua, no? Ma diciamo, quando mi riferivo alla spesa pubblica e al che è aumentare al debito pubblico, mi riferisco a 10 anni in cui sostanzialmente... Buttati via, 10 anni buttati via, diciamo, da questo punto di vista. 8 anni e mezzo sono stati governati al centro-destra. Eh sì, e 2 anni da centro-sinistra. Senta, ma a Cortina, queste scene che abbiamo visto a Cortina, bravo, no? Le sono piaciute oppure è tutta un po' no, una messiccia? No, non mi piacciono perché si può arrivare tranquillamente allo stesso risultato senza fare gli eccessi, perché in effetti c'è anche questo discorso qui molto importante. Perché eccessi secondo lei, scusi? Dove sono? Ma perché non c'è bisogno di criminalizzare una città? Allora criminalizziamo Cortina, Capri, poi Forte dei Marmi, ma che arriva allo stesso risultato tranquillamente senza... Sì, senza fare questi eccessi. Cioè, lei dice si possono ottenere gli stessi risultati dietro le scrivanie, con le sanzioni, eccetera, senza con arrivare tutto lì. Tutto quello che c'è, con i dati e le informazioni ci sono tutte. Beh, però gli scontrini no, eh. Quello lì si può... Cioè, sugli scontrini se non fai vedere, come dire, la presenza, no, dei finanzieri, magari si incassa meno, perché evidentemente si fanno meno scontrini, o sbaglio? No. Si può controllare tutto quanto tranquillamente, l'uscita delle merci, ci sono mille modi per farlo. Comunque, voglio dire, l'hanno fatto. Questo è in contraddizione col suo spirito veramente liberale e filoamericano. Perché? Cioè, quando che c'entra io... filoamericano? Perché, sì, perché in America, se tu non paghi le tasse, ti fanno uno spread tanto, un culo tanto alto quello della signora Merkel, ti fanno una cosa magnifica. Perché deve essere il fisco, la guardia di finanza. Io quando vedo la guardia di finanza non ho paura, non dico, oh cazzo, la guardia di finanza. Dico, bene, venga, venite, perché non ho nulla da temere. Come quelli che quando vedono la polizia dicono, no, stato di polizia. Si vede che avete qualcosa da temere, cari amici. Quando c'è la guardia di finanza in giro, no, bene, però Versace vuole dire un'altra cosa. Versace vuole dire un'altra cosa, se mi permette Versace. Cioè vuole dire che gli stessi risultati, soprattutto per quello che riguarda l'incrocio dei dati sulle macchine, eccetera, si possono ottenere senza troppa fanfara, o sbaglio? Deterrenza. Cioè, Versace, lei che cosa teme, Versace, da quello che è successo a Cortina? No, io non ho timore. La fuga da Cortina, Ma verso St. Moritz. C'è il discorso che la gente può veramente non andare, se ne può andare all'estero a questo punto, capisci? Quindi ma il discorso perché? Qual è? Che c'è un rischio, perché invece di andare a Cortina vanno a St. Moritz, invece dove vanno in Svizzera, in un paese dove c'è tanta qualità di vita, tanta situazione, e chiaramente nessuno gli va a scocciare in questa maniera. Questo è il discorso. Cioè, uno che va in quei posti non dovrebbe essere troppo disturbato, dice lei. Cosa? Cioè, uno che va in quei posti lì per spendere, eccetera, non dovrebbe essere troppo disturbato da questa guardia di finanza che arriva. Ma in Svizzera nessuno disturba queste robe perché sono molto severi su questo. Siccome in Svizzera sono molto severi, nessuno si permette di non rispettare le leggi in tutti i sensi, a 360 gradi. E quindi rispettando le leggi non c'è sta necessità. Ecco, ma lei piace questo signor Befera, che è il grande capo dell'Agenzia delle Entrate, persona naturalmente rispettabilissima, ci inginocchiamo e ci prostriamo, caro Parenzo. Befera, avanti tu. Le piace il fatto che il signor Befera così rilascia interviste? Per esempio la Santanchè dice che il capo del fisco... Che lui porti i risultati, e io sono come per i magistrati, devono parlare con i fatti, i magistrati con le sentenze, lui con i risultati. Troppe interviste, se dice lei. Se tutti diventano personaggi pubblici non mi piace. Dunque non le piace molto il fatto che rilasci interviste... Qua e là. No, lui deve parlare con i risultati, come i magistrati devono parlare con le sentenze. Senta una cosa, ma invece ha sentito questo caso del signor Malinconico, no? E anche dei padroni griffi con queste case, pagate poco. Il signor Malinconico è uno che deve uscire dal governo, perché quando uno si fa pagare i conti da altre persone e via dicendo... Senza dare troppe spiegazioni, dice lei? Esatto, quando uno la casa la ottiene a un quarto, un quinto del suo valore, vuol dire che dietro c'è del marcio. Dietro c'è del marcio. No, padroni griffi, non griffi, se no sembra che sono due. Sì, tu sei ancora convinto che sono due, Che sono due, per forza, due cognomi, cazzo fanno. Però poco male. Quindi lei, la notizia è Versace, due punti, padroni griffi a casa e anche il signor Malinconico. Dunque, all'interno di questo... Tutti quelli che hanno questa situazione qui devono lasciare, non possono avere incarichi. Lei presenterà una mozione di sfiducia, quindi, immagino. No, io non presento mozioni di sfiducia se non prima c'è un accordo di situazione o l'altro, ora vediamo, perché c'è, non dovrebbe essere necessaria neanche una mozione di sfiducia, ci deve pensare il tuo ministro in questo caso. Cioè Monti si muova e faccia di mettere questi casi un po' scandalosi. Monti è napoletano che c'è? Ah sì, perché la nomina. Sì. Scusi un attimo, Versace, ma incombe fra pochi giorni la richiesta di arresto nei confronti del signor Cosentino, il suo amico Cosentino. È amico suo Cosentino, Versace? No, io lo conosco come collega di Parlamento, non c'è rapporto di amicizia. Che dice? La conoscenza parlamentare. Che dice? Come si esprimerà lei? Beh, adesso vedremo gli atti, andremo a vedere l'ultimo. Beh, la Lega oggi ha detto delle cose chiare con Maroni, diremo sì alla richiesta di arresto. Dunque, insomma, mi sembra che gli arresti nei confronti di Cosentini si facciano più vicini nei confronti di Cosentini. Così sembra. Il carcere, lei è contento di questa cosa se uno viene arrestato? Ma io non sono mai contento del carcere preventivo, però sono l'importante è che la magistratura possa lavorare e possa fare il suo lavoro. Vabbè, questo è... il carcere preventivo non è una cosa che piaccia, perché poi ci sono tanta gente che esce fuori innocente e che si dimostra che non deve stare in galera, quindi bisogna stare molto attenti. Vabbè, ho capito, gli atti ormai li conosciamo, Versace, lei come voterà? Diciamola tutta. Ma guardi, per la concessione degli arresti, diciamo la verità. Domani vado a riguardare tutte le carte e a dare un'ultima scorsa. Un'ultima scorsa alle carte. Però ha già deciso lei un po' l'idea se le fa, voterà. Ma diciamo che dentro di me c'è una propensione. Una propensione a che? C'è la propensione a delinquere, no? A votare per l'arresto. Questo lo state dicendo voi, non mi sono pronunciato, mi pronuncerò in aula. C'è una propensione a votare per l'arresto dentro di lei, dentro mi pronuncerò là in aula. Ah, beh, però dentro di lei. Io sono dentro di lei ora. Ma perché tu sei? No, lo sento. Sento che lei dentro è abbastanza orientato per il sì, diciamo così, dai. Senta, no, ma lei è una vostra supposizione. Lei è, diciamo, piuttosto, ho capito che è allergico ai blitz tipo Cortina, però che cosa vorrebbe per gli evasori? No, ma ho capito, lei si è espresso chiaramente, ma i americani non fanno questi blitz, ricordiamoci che l'ho ripetuto fino alla noia. Sì. Al Capone non andate in galera per 200 omicidi. Dunque lei vorrebbe la galera per gli evasori fiscali, la galera. Certo, io dico che per l'evasione fiscale bisogna essere molto severi. Molto severi. Invece per la corruzione, chi tocca il denaro pubblico va trattato con la confisca dei patrimoni e con tutto il resto. Beh. Per la corruzione addirittura chiedo che siano trattati come mafiosi. Allora, intanto devo sottolineare che il signore assessore a Lecce che ha detto che Vendola è una signorina e che i gay sono quello che sono, adesso che poi gente, riprendiamo tutte le dichiarazioni, si è dimesso dal suo incarico. Mi sembra giusto. Beh, insomma, il minimo, però sai, in Italia l'istituto delle dimissioni non è molto conosciuto, come lei sa, bisogna farlo conoscere molto bene. Siamo qui, la Zanzara è ripresa alle 19.16, 800 24 00 24, subito i titoli nell'attesa del ritorno del signor Parenzo, che è andato in bagno, così ci ha comunicato, toilet, che volete fare, l'uomo è fatto così, andiamo a sentire i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. La Merkel e Sarkozy stringono i tempi, vertice sul patto di bilancio anticipato a fine mese, sia la Tobin Tax, priorità crescita e lavoro. Sempre alta la tensione sullo spread, oltre quota 500, titoli tedeschi a tassi zero, crolla Unicredit, meno 15% in borsa. In Europa 8 milioni di disoccupati senza speranza, uno su tre italiano, incontri della Fornero con Cisle e Will, Bonanni ospite del TG3. PDL all'attacco sulla RAI, non è un problema del governo, bisogna cambiare la governance, dice il PD, che intanto cerca la sintesi sulla riforma del lavoro. La Lega voterà sì all'arresto di Cosentino, ha detto Maroni, che non ha nascosto la sua irritazione per gli investimenti del partito all'estero. Visibilmente dimagrita e in affanno, Callistot Anzi entra con le manette ai polsi nell'aula dove si celebra il processo d'appello per il crack Parmalat. Teheran condanna a morte un ex marine americano di origine iraniana, una spia, lavora per la CIA, era in visita alla famiglia, replica il padre. Eri andato in bagno? Ero, beh, ti ringrazio perché comunichi all'universo Popos della Zanzara. Ero andato a fare pipì, si può? O bisogna chiedere al signor malinconico per andare in bagno? No, no, basta chiedere a tutti noi, alla grande comunità della Zanzara, e ti sarà detto puoi andare o non puoi andare. Sono andato nei bagni della sette. Sì, ma ci si può andare nei momenti comandati di solito. Non è che uno quando fa una trasmissione a un certo punto dice scusi, posso un attimo uscire a fare la pipì? No, ho capito, però se uno è... È successo una volta anche nel calcio. Ma io te sport la faccio che anche tu in diretta, non conosci. No, sono in diretta proprio no. Sì, noi possiamo fare tutto. Io intanto però volevo cogliere l'occasione per la tua trasmissione, per ringraziarti e per fare gli auguri sentiti, e non c'è nessuna piaggeria, di buone feste, soprattutto di buon anno. Ma, un anno buon anno, ecco, buone feste, è passato. Ed è senza piaggeria a tutti gli amici della Confindustria. Ma come senza piaggeria? Ma cosa c'entra? Ma perché? Perché? Perché? Perché devi dare queste dimostrazioni di servilismo totale? È giusto così. Cioè, grazie amici della Confindustria. Buon anno. Vabbè. Sull'erba butto spesso il voglio fretta ma troppo inizia la festa. Bene, bene, dopo aver sentito i titoli del TG3, lo sapevi che il nostro amico Mimmo Scilipoti ha detto... Ma è ancora in circolazione quello lì? Sì, sì, lo sai benissimo che è in circolazione, non farlo spiritoso, e poi quando ci parli al telefono sei tutto pappe ciccia, non farlo no, spiritoso come al solito. No, mi ha fatto bianchi chiamato per farmi gli auguri. Beh, giusto, giusto, ti ha fatto io gli auguri di Natale, però... l'hai ringraziato, vi siete dati i bacini per telefono no, e siamo tutti d'accordo. No, per telefono, gli ho detto grazie, dopodiché che sia ancora in giro a fare comunicati, questo mi dispiace. Comunque perché avanti. Ti dispiace? Uno non può fare attività politica, non può fare comunicati, ma cioè sì, non ho capito. Però stiamo parlando di Scilipoti, dai. Allora, vedendo alcune cose, ha detto ad un sito che noi conosciamo bene come Pontifex, pontifex.roma, a volte penso che l'anticristo stia tentando di fare breccia. Cosa e detto? Questo è molto grave. Ma qui la gente peggiora, eh. Cioè ogni giorno, ogni momento che passa. Vedendo alcune cose, a volte penso che l'anticristo stia tentando di fare breccia e questo è molto grave. Può venire, ma c'è una diffusione della malattia mentale che assistiamo a tentativi volgari e ripetuti di sconvolgere o capovolgere le radici cristiane di questo popolo, di ridicolizzare i segni e i valori portanti. E va. È così che si va avanti. Andiamo a sentire appunto il signor Befera, prima citato, che è il capo dell'Agenzia delle Entrate. Bravo, citato da Versace, il quale ha detto: beh, il signor Befera dovrebbe fare come i magistrati, cioè dire parlare solo attraverso le sentenze, solo la decisione, e non fare interviste. E così ha detto il signor Versace, che dopo il PDL, dopo il gruppo misto, adesso ha aderito al partito di Rutelli, colui il quale si è fatto pizzicare alle Maldive con la signora Palombelli. Beh, con la signora Barbara Palombelli, con la legittima consorte. Devo dire la verità, ognuno può fare quello che vuole nella vita, però perché c'è bisogno di dire no, io sono alle Maldive però perché volevo rifare il viaggio di nozze? Perché forse è vero. Sì, ma sarà pure vero, però uno vado alle Maldive, non è che se tu vai a fare il viaggio di nozze oppure vai in vacanza normalmente senza sì. viaggio di nozze sia diversa la cosa. No, è esattamente certo, la stessa magari cosa. Magari l'ha detto perché l'aveva organizzato da tempo. È la stessa cosa, diciamo la verità. Sembra quasi un excusatio non petita. Come no, non è un criminale, cioè ma no, fatto, ma assolutamente, figuriamoci. Non ha mai fatto il viaggio di nozze con la signora Palombelli. È andato a fare questo viaggio di nozze, vabbè. No, ma non c'è problema. Mi sembra strana questa. Basta dire, sono andato alle Maldive, perché devi specificare? Sì, però era viaggio di nozze 30 anni fa. Boh. Cioè, il caso Rutelli se l'è pagata la vacanza. Io ma sì, ma no, ma il signor Carlo Malinconico. Dio, oggi sei fissato questo Malinconico, eh? Ma sì, perché sono molto malinconico io. Lui è felicissimo, sta in Buca di Tre. Perché non ci spiega quando all'epoca era segretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Perché si faceva pagare le vacanze da Piscitelli e da questi della Cricca? Perché? E perché soprattutto questo signore pagava le vacanze a un segretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri? È normale o no? No, no, assolutamente. Io voglio solo sapere. Bisogna dare spiegazioni, bisogna dare spiegazioni. E dove sono? Il giornale oggi ha fatto 5 domande. Perché Repubblica, che ha fatto 10 domande a Berlusconi? A Berlusconi non fa la stessa cosa. Io chiedo solo questo. Io chiedo ai tuoi amici, Ezio Mauro, tuo amico. Ma non è mio amico per niente, ma sei pazzo. Con cui avete fatto la scuola insieme. Ma quale scuola insieme? Tu e lui avete fondato il mondo di Pannunzio, avete la stessa età. Anzi, è più giovane di te per certe cose. Scalfari è più giovane di Cruciani. Senza dubbio. Perché non avete fatto? Tu che hai scritto su quel giornale. Ma quale giornale non ho mai scritto per ma Repubblica? Sì, lo devono sapere tutti. Allora, l'assistente del signor Razzi, amico di Scilipoti, ha denunciato il fatto che è stato pagato in nero. Adesso io voglio dire una cosa, no? Ma perché il signor Pillera, credo che si chiami così, il signor Pillera o Pillera o Pillerano, scherzo, Pillera credo, non si è espresso, come dire, non ha tirato fuori queste cose nel momento in cui veniva pagato in nero e solo dopo, invece adesso spara zero contro Razzi, eletto all'estero con Di Pietro, poi passato, come sapete, con la maggioranza e poi accusato delle peggiori nefandezze, di essersi venduto il proprio voto, eccetera, eccetera. Poi c'è stata la famosa telecamerina di Barbato, eccetera, eccetera. Mi pagava in nero, sentiamo Pillera. Lui praticamente gli pagava in nero il rimborso delle spese, no? Ti ridava questi soldi in brevi mano, in contanti? In contanti, con la promessa facciamo il contratto, perché poi nell'IDV era necessario fare il contratto, no? Perché chiaramente il partito lo imponeva. Ancora Pillera, tempo pieno, 2000 euro per le spese. È full time, tempo pieno. Guarda, io ho perso 2 anni della mia vita. Quanto prendevi al mese? Ma gli dava ogni 2 mesi. Più o meno le spese che andavano via erano di 4.000 euro, 2 mesi, solo per i viaggi e per i ristoranti. Cioè, in tasca io non ho messo una lira. Tieni presente che in 2 mesi tu fai 4-5 viaggi Roma-Zurigo, no? Quindi sono già lì, se ne vanno quasi 2.000 euro di viaggi. Cioè. Ma lui prendeva naturalmente i soldi dall'indennità, certo, delle spese di segreteria, no? Certo, lui prendeva tutti i 4.000 euro mensili. Non voglio più sentire queste cose, questi dettagli di quello che è successo. Come molti deputati non pagano e senatori non pagano secondo le norme, secondo quello che dovrebbe essere fatto, i loro assistenti. Questa è la sostanza. Bello. Dovrebbero essere, io dico, gli assistenti dei parlamentari dovrebbero essere pagati direttamente dal Parlamento, come avviene in Europa. Il Parlamento europeo funziona così. Tu hai 2 o 3 assistenti, quelli che ti pare, hai un budget, ma non lo gestisci tu direttamente. Comunichi al signore, al capo del Parlamento europeo. Certo. Comunichi, io voglio far lavorare con me Tizio, Caio e Sempronio, e Tizio, Caio e Sempronio si relazionano con l'istituzione Parlamento europeo. Esatto. La stessa cosa dovrebbe accadere con il Parlamento italiano. Le spese aumentano, chi se ne frega, perché qualcuno dice le spese potrebbero aumentare, chi se ne frega, va bene lo stesso, è importante che ci sia chiarezza e non la cosa che non si sa, qualcuno pagato in nero, qualcuno con rimborsi, esatto, spese, però non ti posso fare il contratto e giù. Ma perché dovrebbero aumentare le spese? No, pare che possano aumentare, perché naturalmente se tutti vengono messi esattamente in regola il budget potrebbe addirittura sforare rispetto a quello che... Vabbè, ma comunque, insomma, ti ripeto, il punto non è questo. Importante che siano pagati direttamente dall'istituzione, certo, e non... tutte scuse, inventano delle 1000 scuse per fare Lorenzo capo, dalla provincia di Venezia, buonasera. Chi è Lorenzo? Sì, buonasera. Dica, signor Lorenzo. Dottor... Sì, dobbiamo far sentire Befera, Befera, signor Befera, è necessario incutere un sano timore, il ha sano ragione. Timore di Befera, questo è interessante, bravo, bravo. Il concetto di sano timore. Noi abbiamo di fronte 40 milioni di contribuenti e noi siamo 32.000, di cui soltanto una parte addetta al controllo, quindi è necessario incutere un sano timore. Il sano timore di Befera, il sano timore di Befera. Allora, senza Equitalia aumenta l'evasione. Io sono d'accordo anche con questo, però, su questo. Senza Equitalia, io non sono per l'attacco indiscriminato ad Equitalia. Diciamo la verità, ci sono state degli errori, delle cartelle pazze, qualche volta troppa rigidità, non si ascolta abbastanza la persona coinvolta, la persona, no, colpita da una cartella esattoriale, non c'è dubbio, però i dati sono quelli, sono stati recuperati un sacco di quattrini. Questa è la realtà. Ecco. Straquadanio la settimana prima di andare in ferie ci ha detto: questo è pizzo di Stato. Beh, no, caro Straquadanio, per carità, va bene che tu l'abbia detto, però non è pizzo di Stato, non è come a Palermo. L'unica cosa che non vorrei che si generalizzasse, perché attenzione, se fermiamo Equitalia, che è l'ultima, sì, società della filiera di riscossione delle imposte, fermiamo tutto, l'evasione riaumenta. Tu che dici? Viva, viva Befera? Viva Befera sempre! Ma di cosa ci stiamo parlando? Di una cosa talmente ovvia che tutte le persone oneste e la maggior parte degli italiani dovrebbero dire viva Befera, dovrebbero fargli gli applausi. Ma è giusto andare... che rilasci così tante interviste, secondo ma te? È giusto far frega, conoscere il volto del fisco? Ma il volto, certo, del fisco? Perché il volto del fisco deve essere un volto che la gente conosce, mica un'entità astratta, la faccia di chi fa le grandi operazioni e le cose. Voglio vedere la faccia, come conosco il capo della polizia, come conosco i nomi dei magistrati, voglio vederli in faccia i servitori dello Stato, e bisognerebbe battere le in un paese civile, chi ha da temere sono i ladroni e sono... Beh, sì, però a me questo concetto, chi ha da temere, cioè, non mi piace. E come no? È un ladro, uno che non paga le tasse, sì, è un ladro. Sì, d'accordo, ma io, però non dire queste banalità, sono banalità, sono banalità. Ma no, perché sono banalità, sono banalità assortite. Con cui non ho fatto le vacanze. Oddio, non so questo Cicchitto che sei Fabrizio fissato. Fabrizio, lo conosci? Sì, Fabrizio, sì, allora? Ma tu hai... Vabbè, però eravamo con Lorenzo, dalla provincia di Venezia. Fai finire Lorenzo, sì, invece di dire sempre le stesse cose. Lorenzo, allora. Ma scusate, io sono fondamentalmente abbastanza d'accordo con quello che state affermando da più di qualche minuto. Semplicemente, cioè, per esempio, Casini, poveraccio, lui è sposato con una Caltagirone. Vabbè, non è un delitto, non è un crimine, scusi, No, allora, infatti, non vedo perché adesso bisogna sottolineare la vacanza da 5.000 euro di Casini alla settimana che è andato alle Maldive, cioè se non li ha lui, li ha la moglie, perché la moglie non è... No, ma infatti nessuno ha detto che Casini li ha rubati i soldi per andare alle Maldive, scusi. Prego? Nessuno ha detto che li ha rubati quei soldi. Appunto, ma per cui non mi soffermerei sul fatto che Casini o Cicchitto vadano alle Maldive e spendano 5, 6, 7.000 euro. Sì. Li hanno guadagnati. Vabbè, allora... Più o meno... Si presume, fino a prova contraria, più o meno onestamente, fino adesso prendono 15-20 mila euro al mese. Sì. Adesso non è che cambiamo la legge e ci rifacciamo dare indietro i soldi di quelli che non si sono meritati negli anni scorsi. Mm. Smettiamo adesso, il prossimo anno vedrai che Casini non va più alle Maldive. Ma perché non dovrebbe andare alle Maldive? A Jesolo, in inverno. Va bene, però, scusi un attimo, aspetti cosa... un attimo, torno da lei dopo la pubblicità e dopo la borsa. Eccoci, 800 24 00 24. Fiorello su Cortina. Fiorello, no, un attimo, l'assessore di Lecce. Ex assessore. Pronto? Beh, no, non mi freghi stavolta, Non mi freghi, non mi freghi. Poi questo è importante, il signor Giuseppe Ripa. Giuseppe Ripa, riproviamoci col signor Giuseppe Ripa. Una brutta persona proprio. Beh, brutta persona adesso, cioè, ha detto una stupidaggine, ha detto una castroneria. Una cosa da brutta persona, posso dire che è una brutta. Ha detto una castroneria. Non è un criminale, ma ha detto una cosa da brutta persona, assolutamente volgare, inelegante e razzista. Bene, 800 24 00 24, anzi male. Sono contento. No, sono contento di essere tornato in onda. Non sei malinconico, mi fa piacere. No, no, non sono affatto malinconico. Però ricordiamo cosa ha detto questo assessore, Giuseppe Ripa di Lecce. Signorina Bendola, turbe della psiche, così ha chiamato la malattia di cui soffrirebbe Bendola, che in realtà non soffre di alcuna malattia. Pronto? Signor Ripa? Ripa? Salve, buonasera, sì. Sono Cruciani, Radio 24, come sta? Lorenzo. Pronto? No, capivo, scusa, non sento niente. Sì, scusi, signor Ripa, Cruciani, Radio 24, come sta? La disturbo? Come sta? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, no, ho saputo che si è dimesso. No, abbiamo saputo che lei si è dimesso. Sì, mi sono dimesso, sì. No, vabbè, ma facciamo i giornalisti, la stiamo chiamando semplicemente per chiederle se si è dimesso o no, se conferma, se ci può spiegare i motivi. So, facciamo il nostro mestiere, una cosa normale, domande, un amministratore risponde, insomma, non mi sembra che ci sia niente di strano. Non la conosco, è una maniera molto informale di chiamarmi, di farmi delle domande. No, sono... Sto capendo di cosa stiamo parlando. No, scusi, signor Ripa, mi sono presentato. La sento male, qui non sto capendo. Aspetti un attimo, signor Ripa, mi presento, in realtà mi sono presentato, mi chiamo Giuseppe Cruciani, la Zanzara, Radio 24, insieme a me c'è anche il signor Parenzo, David Parenzo, Radio 24. La Zanzara, le stiamo chiedendo se è vero o no che lei si è dimesso dall'assessorato ai trasporti del comune di Lecce. No, la sentiamo molto male. Dove si trova? In che zona si trova, signor Ripa? Pronto? Sto sentendo malissimo. Anch'io la sento male, come mai? Che non lo so dire, io sono un testino della città. No, lei non lavora. Mi sta sentendo male. Mi sta sentendo male. Si è dimesso o no per quelle frasi che ha detto? Pronto? Pronto? Pronto? Vabbè, riproviamo subito. Resti lì un attimo, Ripa. Non se ne vada. Non sfugga. Non sfugga alla zanzara. La richiamiamo subito. 800-24-0024. Intanto ci ha chiamato Barbara Palombelli. Buonasera. Buonasera, ho sentito che parlavate di me e quindi volevo chiarire. Ah, come no, come no, certo. Certo, certo, come no. Siamo qua. Allora, no, il Corriere della Sera insieme ad altri giornali hanno pubblicato qualche giorno fa, come sai, questa notizia. No, il Corriere da solo. Il Corriere da solo, non mi ricordo, era in vacanza. Da solo, e diciamo senza fare magari quella telefonata di verifica che uno dopo che ci ha lavorato 8 anni, no, magari, però pazienza, insomma, le verifiche erano una cosa della preistorica quando ho iniziato io a fare questo lavoro. Ma cosa hanno scritto di sbagliato? Scritto due cose diciamo molto antipatiche. La prima era diciamo dei prezzi ridicoli, perché quella sarebbe una rapina a mano armata, insomma, andare in un posto qualunque, in un villaggio delle Maldive, spendere $5,000 a notte, insomma, ci sarebbero gli estremi della rapina. Beh, qui hanno scritto dai 2.550 a 5.700. Ed è assolutamente ridicolo, i prezzi sono tutti altri, insomma, sono i prezzi ovviamente di una vacanza a 4 stelle con barca compresa, compresa, ma insomma siamo intorno ai $1,000 al giorno a coppia, insomma, quindi $1,000 al giorno a coppia circa, e quindi fai conto un 700-800 euro al giorno per tutti e due, però compreso anche diciamo la maschera, le pinne e tutto il resto. Dunque, quanto, quindi, quanto vi è costata la settimana intera? Sono, è un regalo di mio marito, quindi non lo so, non voglio neanche essere indiscreta. Lui ha dato quella spiegazione, perché io sono 30 anni che gli chiedo di andare, lui non ama il mare, no. Quindi dovendo spiegare a Facebook com'era andata la cosa, ha detto, sono andato, ho fatto una sorpresa a mia moglie che aspettava da 30 anni, perché lui non ama il mare e non voleva mai finire in un'isoletta circondata d'acqua, capito? Per cui è vera questa cosa, cosa però volevo dire l'altra cosa antipatica, molto antipatica del Corriere della Sera, che poi è diventata un tantam su Facebook, era che ci fosse stata addirittura l'offerta da parte del proprietario, cioè che fossimo degli scrocconi. Sì, e l'editore del Corriere dello Sport, no? Insomma, l'editore del Corriere dello Sport è una persona deliziosa, tra l'altro abbiamo convissuto nello stesso palazzo 10 anni quando Repubblica era in affitto. Sì, me lo ricordo, Modei, Piazza Indipendenza. E ci incontravamo, io facevo anche un po' la tipografia all'inizio, quindi insomma abbiamo convissuto e quindi è una persona deliziosa, ma... nessun favoritismo, proprio... nessuna... No, nessun... Ecco, la cosa insinuante è che uno andasse lì, ma la cosa poi che volevo sottolineare con voi, che siete sempre molto brillanti, è che tutto questo, diciamo, non solo ognuno poi, cioè, chi si compra una moto, chi fa un bel viaggio, chi si compra magari un quadro antico, insomma, diciamo, poi no, ognuno con i suoi risparmi fa quello che crede, ma è chi sono gli arbitri di questa, i giudici di questi comportamenti? Beh, insomma, sono giornalisti e colleghi che all'epoca hanno avuto la casa dell'ente, che si giravano con le macchine. Ma chi ti riferisci? Ma insomma, dai, non c'è bisogno di nomi. Cioè, voglio dire, è un po' la sagra dell'ipocrisia tutta questa storia, no? Sì, non no, ma a me sembra che ci sia molta ipocrisia nel fatto di... Ma io credo che chi ha un ruolo pubblico, e in questo, scusami, ci metto anch'io, se no non sarei qui al telefono con voi, deve rispondere di tutti i suoi comportamenti. Io rispondo. No, ma in questo caso tu non c'entri niente, naturalmente. No, però è sempre una cosa, insomma, un giornalista, secondo me, anche tu, anche Parenzo, cioè quando uno parla a centinaia di migliaia di persone, ha un ruolo pubblico, non dico che sia un politico. Io infatti estenderei il concetto di casta, tra virgolette, o comunque, anche a giornalisti che prendono legittimamente soldi da Telecom, soldi da Rai, soldi da Mediaset. Cioè, mi sembra che se tutti dobbiamo essere trasparenti, io sono la prima, ho risposto su tutto, su Facebook, appunto, l'ha fatto anche mio marito, l'avete anche accusato di avere risposto troppo. Io credo che non è mai troppo. No, a me è sembrata, no, a me è sembrato, sempre scherzando naturalmente, perché a me è sembrato che bastava dire sono andato alle Maldive perché mi andava ad andare alle Maldive, senza dire beh, sono andato alle Maldive, però solamente perché sono 30 anni che non abbiamo fatto il viaggio di nozze, eccetera. Sono andata in banca dopo, insomma, per fare delle operazioni, la ragazza che era allo sportello mi ha detto sono andata 4 volte, insomma, ci sono 200.000 italiani all'anno da 30 anni che vanno alle Maldive e sono, e tra l'altro è un posto meraviglioso, non vedo l'ora di tornarci. Spero che tutti, cioè, può essere anche, può essere una vacanza, vadano, tu dici può essere una vacanza anche molto popolare, può essere anche una vacanza. Noi eravamo in un villaggio con medici, avvocati, commercialisti, commercianti di tutta Roma, cioè voglio dire è una vacanza sicuramente costosa, ma per chi magari non ha particolari vizi o ama fare dei bei viaggi, una volta l'anno si può fare. Nel caso noi, insomma, mio marito ha fatto il sindaco, però 18 anni, è stato al governo, cioè le vacanze spesso le abbiamo fatte lavorando, quindi è un po' una cosa eccezionale. Ecco, ma a chi dice invece, beh, insomma, in questo momento, quando si parla, Rutelli lo ha fatto più volte, naturalmente, i sacrifici che il governo Monti deve fare, poi uno se lo ritrova, certo, fotografato, alle Maldive in vacanza. Come si risponde a questa critica? Ma intanto non è che uno si va a nascondere in un posto così, no? Magari ci si nasconde in ville comprate, appunto, magari con chissà quali soldi o regalate, no? Cioè, uno non era certo che ci voleva nascondere, uno va a Fiumicino, prende l'aereo. No, alle Maldive non ci si nasconde, su questo. Ma no, ma 300 persone sull'aereo che hanno ognuna il telefonino in mano, la telecamera in mano. Cioè, in questo, sinceramente, nessuno di noi aveva qualcosa da nascondere, questo almeno la buona fede. È più facile magari nascondersi, appunto, in qualche villa, in qualche beauty farm, se uno proprio vuole nascondersi. Ma questo, sinceramente, capisco che ci sono delle persone che hanno dei privilegi, noi siamo fra quelli, assolutamente. Io personalmente, nella mia vita, ma qui non è il caso di fare, di lodarsi, perché non è questo, ma insomma, ho cercato, insomma, con la mia vita privata, con le adozioni, ho creato 6 onlus, insomma, di restituire quello che è un privilegio che peraltro io ho anche dalla nascita, perché per fortuna, grazie appunto alla sono benestante, diciamo. Sì, ma questo sinceramente non è un delitto, non è un crimine, certo. Esatto. Ho scritto 2 libri autobiografici per raccontare. Ecco, ma te l'aspettavi dal Corriere, una cosa del genere? Cioè, hai parlato col direttore? No, magari, ecco, mi sarei augurata che una telefonata prima di dire che uno va proprio a scrocco in vacanza, oppure spende $5,000 al giorno, ripeto, $5,000 al giorno messo in un titolo, sinceramente, insomma. Mi ha molto stupito però che siamo stati anche gli unici a rispondere. Comunque, questo chiudo la parola. Rispetto questa è un'osservazione giornalistica. No? Ma come si sta? Una favola in quei posti? Guarda, Giuseppe, posso dirti una cosa? Io ho una grande età, ho 58 anni. Sì. Amo il mare, ho visto il paradiso, non vedo l'ora di tornarci. Bene, grazie. Evviva. Grazie, a presto. Grazie. 19:44, abbiamo 30, no, non abbiamo 30 secondi, ma abbiamo Giuseppe Ripa, che è assessore dei trasporti al Comune di Lecce. Buonasera. Oh, mamma mia, dalle stelle alle stalle. Eccoci, Ripa, come sta? Dalle stelle alle stalle. Ma perché dalle stelle alle stalle? Devi sempre attaccare subito all'attacco. Non ha nemmeno parlato, signor Ripa, si è anche dimesso. Ma meno male. Lei è mandato alle Maldive, signor Ripa? No, perché non ho le possibilità della signora Palombelli. Vabbè, adesso questo è come se lei volesse mettersi in contrapposizione alla signora Palombelli. No, semplicemente dice non ho le stesse possibilità economiche. Vabbè, ma io lo auguro. Compenso dice delle castronerie enormi e quindi vabbè. Questo. Senta, ma perché si è dimesso alla fine? Ho letto per non danneggiare il suo sindaco che si ripresenterà alle elezioni, è così? Certo, perché sono stato sottoposto a un linciaggio mediatico. Sì? Un equivoco per cui ho chiarito abbondantemente e peraltro ho chiesto scusa pubblicamente. Sì. Linciaggio è stato criticato. Perché devi parlare di linciaggio? È stato criticato per alcune. No, io parlo di linciaggio perché ho tutti i messaggi che ho stampato puntualmente. E posso dire con molta serenità, perché fa parte del mio carattere, che a fronte di una persona, di un essere umano, che chiede scusa pubblicamente, e credo che questo abbia un prezzo, sia morale che morale, appunto morale che umano, diciamo, a fronte di questo, invece di avere, come me lo hanno fatto tantissime persone, anche su Facebook com'è che si dice Facebook? Sì. Facebook. Su Facebook stesso, come anche per email, diversa, ho ricevuto di contro una serie di messaggi di una violenza inaudita. Sì. Allora, però, per evitare che questo fosse strumentalizzato contro la mia amministrazione, siccome grazie a Dio non vivo di politica, ma sono prestato alla politica. Sì. Torno tranquillamente alla mia famiglia a fare il mio lavoro. Benissimo. Senta, signor Ripa, però lei si è dimesso per non danneggiare, diciamo, il suo sindaco, eccetera. Però lei deve ammettere qui davanti al grande pubblico della Zanzara. No, chiedere scusa l'ha già detto, se vuole lo ripeta. Chiedo scusa per quello che ho scritto, eccetera, eccetera. Come le è venuto in mente di dare della signorina a Bendola? Allora, lei probabilmente, chiedo scusa, non è al corrente di tutta la vicenda. No, come no, sono al corrente, certo. E allora, ho già avuto modo di dire che stavo dialogando sulle questioni della sanità pugliese, lo sappiamo. Esatto, con un amico sulla sanità pugliese. E va bene. Ci siamo accapigliati un attimino, abbiamo fatto alzare un po' il tono della discussione. E va bene, ci sta. Ho commesso, siccome sono un essere umano come tutti quanti, sì? Ho commesso l'errore di cadere in una provocazione. Che vuol dire provocazione, scusi? Provocazione, cioè questo mio amico mi ha provocato in una certa maniera perché è di parte politica contrapposta. Io mi sono lasciato andare a una considerazione, ripeto a caldo, sì, perché se lo avessi detto, pensato, chi mi conosce sicuramente come me lo hanno riconosciuto, non fa parte del mio costume e del mio stile. Beh, scusi, però il fatto che uno dice a un certo punto la signorina Vendola, sì, sarà stata pure una provocazione, ma che senso ha pronunciare la frase la signorina Vendola? Forse non sono stato chiaro, ho detto in un momento in cui è salito il tono della discussione, sì, ci siamo così, pensando che la cosa finisse lì. Invece, per non rispondere sui problemi che stavo evidenziando, che erano quelli della mala sanità pugliese, sì, della mala sanità pugliese, sì, e Leccese in particolare, peraltro molto ben nota anche per vicende giudiziarie, sì, chi ha voluto non ha cavalcato le risposte, sì, che io mi attendevo sulla sanità e si è nascosto dietro. Ma va bene, ma questo ci sta, la polemica forte sul merito della cosa ci sta tutta, ci interessa anche poco perché riguarda problemi locali certo importanti, però lei ha dato della signorina Vendola, poi forse mi sono espresso male. No, ma lei si è espresso bene, ha detto è stata una provocazione, però questa cosa qui nasconde un retropensiero, ma questo è chiaro. No, nella maniera più assoluta. Ma come nella maniera più assoluta? Lei ha detto anche concludere lei. Ma scusi un attimo, nessun retropensiero, tanto è nei fatti che ho fatto le mie scuse pubbliche riconoscendo che è stato un momento di rabbia detto, ripeto, a seguito di un battibecco con un mio amico. Quindi, no, ma d'accordo, momento di rabbia, d'accordo. Riconoscere sì, e chiedere scusa per questo significa evidentemente non avere le convinzioni, no, per cui si è detto determinate cose, se no uno non chiede scusa. Lei ha chiesto scusa, si è sbagliato in un momento di rabbia, eccetera. Però ha anche aggiunto. Lei non ci sbaglia mai. Sì, per carità, signori, ma io mi sbaglio ogni giorno. Mi scusi, lei è una persona come tutti gli altri che non possono sbagliare. Ma io l'ho detto, sbaglio sempre, ogni giorno. Io sono un essere umano. Benissimo. Ho sbagliato, ho chiesto scusa. Però lei ha detto anche una cosa a proposito degli esseri umani. In natura esistono solo due tipi di generi umani, l'uomo e la donna. Il resto, un attimo solo, il resto viene classificato scientificamente come turbe della psiche. Dunque lei ha detto che sostanzialmente i gay sono turbati nella psiche. Questa è la è una cosa che non penso. E allora perché l'ha detto, scusi? È stata una cosa detta, glielo ripeto, in un momento di foga del discorso. Ma non è foga, questo è un ragionamento, non è una foga. Queste sono conclusioni gratuite a cui sta avvenendo. Ma non gratuite, questo è un ragionamento vero e proprio. Perché io le sto dicendo, è stata la foga di un discorso, sì, per cui, punto, passato a sangue freddo, ho chiesto scusa perché non mi riconosco in quei concetti, ripeto, era legato a un momento, a un contesto. Lei non sarà mai capitato che si è litigato con un amico, magari si è mandato a quel paese, dopo 10 minuti stava ridendo e scherzando, diceva un caffè. No, scusi, dicendo, però io non ho mai detto. Sono stupido ad averti detto qualche cosa. Sì, certo, cose. Io avrò detto, detto qualche volta, raramente, quando ero ragazzino. A me è successo quello, eccetera, eccetera. Però a me è successo questo. No, a lei è successo di fare un ragionamento che è diverso. No, in natura. Non ho fatto un ragionamento. Ma scusi, ma quando uno dice in natura, non è che è uno sfogo questo qua. In natura esistono solo due tipi di generi umani, l'uomo e la donna. Il resto viene classificato scientificamente come turbe della psiche. Egregio amico mio, io le sto dicendo, è avvenuto questo. Sì. Poi se lei mi vuole fare il tribunale dell'inquisizione. No, ma non è il tribunale. Faccia scrivere da un suo legale, io no, le ma per carità, ma siamo alla mia. Allora, se le sto dicendo che è stato un momento di cui il tono del discorso è salito ed è stato detto da parte mia e da parte del mio amico cose che sicuramente non pensiamo a mettere fretta. Sì, benissimo. Per questo, atteso che qualcheduno, siccome mi ha letto su Facebook, sì, si può essere risentito, può essere stato colpito, sì, da quello che io ho detto, ho chiesto pubblicamente ma ha parlato con Vendola, ha chiesto scusa a Vendola in privato anche? Ho mandato una lettera al presidente Vendola privata. Ho chiesto anche al presidente Vendola di poterlo incontrare per stringergli la mano e per spiegargli di persona quello che ha fatto. E lui ha risposto già no? Se l'ho mandata stamattina. Che ne so, magari. Lei confida nell'efficienza di un mezzo, quello delle poste, che mi sembra notoriamente. Io però uso le mail, no? Esistono anche le mail, come lei sa, se usa Facebook. Ma non so l'email del presidente Vendola, se non l'avevi sfruttato. Non è difficile, però, assessore Ripa. Non ce l'ho, ho mandato un cartaceo. Ha mandato un cartaceo, va bene. Comunque. Nessuna mi possa condannare perché ho mandato. Ma no, ma non siamo mica le condanne qui, per carità. Il suo tono mi sembra un po' inquisitorio. No, ma assolutamente. Quindi scusi. Ripa, guardi. Lei è stato, anzi devo dire la verità Parenzo, bisogna dirla tutta, ci mette la faccia, parla, si spiega, anche se ha detto secondo me una castroneria, dice che è stato un momento di rabbia, che probabilmente non lo farà più, anzi sicuramente non lo farà più, si è dimesso, non è quello che penso. Si è dimesso, giusto, si è dimesso, certo. questo è già qualcosa, perché secondo me è una dimissione dovuta, però non mi dica che mi sono dimesso perché c'è stata una campagna nei miei confronti, mi sono dimesso perché... No, io invece la motivazione è esattamente quella. Ma perché non può dire mi sono dimesso perché ho detto una cosa sbagliata? No, perché in una maniera più assoluta non mi risulta che tante persone anche in Parlamento si dimettono per aver detto cose sbagliate. E beh, che c'entra questo? Se non lo fanno gli altri non è che uno non lo può fare. E io viceversa non l'ho fatto perché non ho ritenuto di doverlo fare per quello. Io non l'ho fatto perché sono stato sottoposto, malgrado, come l'ho spiegato precedentemente, le mie scuse pubbliche, che chiaramente hanno avuto un prezzo sia morale che umano, mi sono reso conto che sono stato sottoposto ad un linciaggio per cui stava pagando la mia famiglia, perché sono stati insulti diretti a mia figlia, a mia moglie. Ma che insulti, scusi, che tipo di insulti? Non sono cose che le interessano, sono riportate su ma come non mi interessano, faccio il cronista, dei messaggi che mi sono arrivati, io li ho estrapolati, li ho dati pure al mio legale, per cui, ma cose pesanti, no, perché se sono cose pesanti voglio, naturalmente, scusi, vorrei finire il concetto. Sì, prego. Come non voglio che la mia famiglia subisca degli attacchi per colpe mie, per atteggiamenti miei. Ma che le hanno scritto, scusi, vi ammazziamo, minacce serie. Minacce serie, e le pensa che lei sia simpatico che al mia figlia viene mandato un messaggio vergognati di tuo padre? Vabbè, adesso vergogna di tuo padre non mi sembra una minaccia, vergogna di tuo padre. Non sembra la minaccia, no, lo faccia dire a sua figlia. Non lo ma no, è una cosa grave. Può anche pensare che ci siano delle persone che non siano disposte a sentirselo dire. No, perché Ripa, adesso non sto minimizzando. Per la libertà di pensiero, ma non sto minimizzando quello che le minacce che lei ha ricevuto. Però non è, se io le chiedo quale minaccia ha ricevuto sua figlia, lei mi dice vergogna di tuo padre, va bene, per carità, è una minaccia grave. Non dovrebbe accadere, però mi sembrava di aver capito che ci fosse qualcosa di peggio. Così, no, ci sono pure delle qualcosa di peggio, tipo anche minacce. Personali, anche minacce personali. Io le ho detto soltanto un particolare. Senta, però mi dico una cosa, lei pensa davvero che se è omosessuale in fondo è un po' malato? Allora forse non mi sto spiegando. No, questa è una domanda che prescinde dal merito. Io non entro in quelle che sono le scelte strettamente personali. Sì, e vabbè. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Sì, però? Io non ho assolutamente preclusioni per tutti gli esseri viventi, non l'omosessuale in particolare. Per tutti gli esseri. Perché tra l'altro sono un fervente cattolico, un credente questo convinto. Sarà. Sì. Quindi detto questo, per me tutte le persone hanno la stessa dignità e hanno diritto allo stesso rispetto. Mm. E qui ci mancherebbe altro, sta dicendo una cosa ovvia. Mm. Questo dunque hanno tutto lo stesso rispetto. Detto questo, considera gli omosessuali un po' malati? Nella maniera più assoluta. No. L'ho detto prima, io lo ripeto. Mm. No, una cosa è uno dice non bisogna discriminare, però... Non c'è nessun però. No. Io per me sono persone degne della totale dignità e rispetto come tutti gli altri. Cioè non hanno qualche patologia, dico. Nella maniera più assoluta. Vabbè, benissimo. Mai pensata, lei dice una cosa del genere. Cioè ripeto... Sono come me e lei. Insomma, lei è eterosessuale, immagino. Guardi, a parte il fatto che io non sono tenuto a rispondere su queste cose che sono sempre delle scelte personali. Vabbè, ma comunque... Già questo atteggiamento da parte sua sta travalicando quello che è la sfera personale. No, beh, ma... Non ho motivo a rispondergli, però sta andando oltre. Sto andando oltre. Le sto dicendo, io non ho alcun tipo di preclusione nei confronti di nessun essere umano, che deve avere la stessa dignità e la stessa parità di rispetto. Ho detto che quello che è scappato è stato detto in un momento, è stato solo in un momento così di alterco verbale tra due persone, come può accadere a tutti. Sì. Tanto è nelle mie convinzioni che non ho avuto assolutamente difficoltà a riconoscere l'errore fatto e a chiedere scusa. Allora, abbiamo la pubblicità, torniamo subito, se lei mi dà giusto un altro minuto, abbiamo avuto un confronto serrato, però credo civile, 800 24 00 24. Eccoci qui 800 24 00 24 con un uomo al centro delle polemiche qui alla Zanzara, caro Parenzo. Bene. Che si trova a Roma, invece da Lecce, ci mette la faccia, viene a parlare qui alla Zanzara, e questo comunque aveva definito governatore della Puglia Nichi Vendola una signorina e anche affetto da turbe della psiche. Ci ha spiegato perché l'ha fatto. Noi abbiamo contestato, insomma ci siamo confrontati su questo. Caro Ripa, vuoi chiedere qualcosa a Ripa? Vuoi che organizzi un gay pride a Lecce? Non sarebbe male. Ecco, questo sarebbe un atto di civiltà, visto che ha detto che non ha nulla contro gli omosessuali. Ecco, lo farebbe quindi... un bel gay pride a Lecce, caro Ripa. Io non ho problemi a incontrarmi con nessuno. No, incontrarsi, organizzare, promuovere il gay pride a Se Lecce. Se avessi le possibilità... Non ho problemi a farlo. Adesso però non passi all'eccesso, però, cioè addirittura... No, vede, la tolleranza che significato ha, che valore ha? La tolleranza è a 360 gradi, poi dipende, è chiaro, come si possa applicare. Le sto dicendo, se ne avessi le possibilità... Se ne avessi le possibilità, fa l'assessore, lei... L'ho fatto anche da assessore, quando mi è stata chiesta la disponibilità di piazze, strade e quant'altro... Non ho mai chiuso la porta in faccia a nessuno. Faccio un appello. Sono stato portato ad esempio in quattro anni e mezzo di attività, le posso dare decine e decine di lettere e commenti per la mia disponibilità alla condivisione. Su ogni mia scelta io ho convocato associazioni consumatori, associazioni commercianti, cittadini. Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa più ampia, per cui non ho problemi. Ripeto, lei sta parlando con una persona che non conosce. No, vabbè, ma che faccio una bella conoscenza, come è stato fatto su tante emittenti locali oggi pomeriggio qui nella mia città. Che hanno fatto? Mi hanno dato assolutamente atto che, fermo restando l'errore umano, sono una persona tranquilla, pagata per bene. Per cui, vabbè, adesso qui non siamo. Qui non siamo... Non mi debba mettere a disposizione quando lei mi chiede. Una disponibilità di questo Ma infatti tipo. Lei mi sembra che ha avuto la possibilità di spiegare tranquillamente, però lascia a noi anche la possibilità di replicare, non è che siamo qui a fare come dire, i famosi reggi microfono. No, ma infatti lei ha spiegato, io sto dicendo che secondo me si è trattato di un ragionamento un po' troppo articolato per essere uno sfogo, ma su questo ci siamo chiariti. Faccio un appello al suo sindaco allora, dica, caro sindaco, rendiamo Lecce città gay friendly. Lecce gay friendly addirittura, oppure i registri per le coppie omosessuali, c'è un registro per le coppie omosessuali? No, quello non lo condivido. Quello non lo condivide, come mai? Perché non lo condivido? Perché non rientra in quelle che sono le mie convinzioni di cattolico cristiano. Cioè comunque cose vicino al matrimonio mai lei dice? No, ognuno è libero di fare le sue scelte personali, giusto o no? Però lo Stato non le può, come dice, non le può abitimare. Non esiste ancora una normativa, sono stati fatti una serie di tentativi in tanti comuni che sono andati a vuoto perché non esistono i supposti normativi. Sì. Senta un attimo, ma le chiedo un'ultima cosa, poi la lascio. Ma il sindaco le ha chiesto, anche il sindaco era imbarazzato, insomma, diciamo la verità, le ha chiesto di dimettersi, no? No, nella maniera più assoluta, è una scelta personale mia che ho fatto. Tra l'altro non mi è costata, sono estremamente sereno. Però scusi, la vita continua, non è che io sia, cioè, voglio dire, non farà più politica. Non ho la poltrona di assessore. Domani sono morto, grazie a Dio, viva Dio, la vita continua. Beh, questo ci mancherebbe altro, insomma. Allora, ci mancherebbe altro. In un paese in cui tutti sono attaccati, o tantissimi sono attaccati alle poltrone, trovate una persona che dice queste sono le divisioni, punto. Senta, ma lei il fatto che Io credo che se lo facessero tutti, probabilmente così, in queste situazioni di errori, o di sbagli, o di responsabilità amministrative, forse avremo un paese più vivibile. Senta, un'ultima cosa, secondo lei Vendola, per il fatto di essere omosessuale, è meno cristiano? Ma non lo so, perché non ho avuto modo di parlare con lui. Cioè si può essere cristiani e omosessuali, sì? Ma oppure c'è una contraddizione tra queste due cose? No, nella maniera più assoluta. Si può essere tranquillamente, lei ne conoscerà. Tutto stiamo parlando sempre di esseri umani, non no? Vabbè, questo non c'è dubbio. Che c'è? Faccia una distinzione tra esseri umani e esseri no, umani. Ma ci mancherebbe altro. Io lo sto dicendo come domanda. Se si dà la salvaguardia della vita fin dal momento del suo concepimento, si immagini un poco se si fa una discriminazione tra esseri umani. Ma guardi, io non faccio nessuna discriminazione. Forse c'è qualcun altro che l'ha fatta. Però per la Chiesa, un omosessuale non ha la salvezza. Per la dottrina, no, dice Parenzo che per la dottrina cattolica chi è omosessuale non può ambire alla salvezza, nulla salus extra ecclesia, caro. Probabilmente non può ambire a creare una famiglia, perché per me io sono nato con il concetto che la famiglia, per quanto mi riguarda, è formata da un uomo e da una donna. E non c'è dubbio. Ed è una scelta mia, personale. E su questo non c'è dubbio. Dunque sulla lei è una famiglia... Sulla quale famiglia... gradirei il rispetto. Ma assolutamente no, ma io rispetto tantissimo. Dunque, secondo lei, quando lei vede, che ne so, in televisione o da qualche altra parte, un'ipotesi di famiglia, un modello di famiglia con due uomini o due donne, un po' rabbrividisce, diciamo la verità. No, non è una scelta che mi compete né mi interessa. Non è... Non le piace come cosa anche il fatto Io sono, ripeto, ho un concetto molto ampio della tolleranza. Sì. Per cui quando io vedo un discorso del genere, parto dal presupposto, anche per altre ragioni sono molto tollerante, per cui parto dal presupposto che ognuno è libero di fare quello che vuole, l'importante è che il suo comportamento non è un comportamento che lede la dignità, la sensibilità delle persone che vi sono vicine. E dunque, per esempio, qual è il comportamento che un omosessuale potrebbe fare per... Nessuno, cioè, voglio dire, l'ho detto, non ipotizzo un comportamento. Particolare. Senta, ognuno è libero, se ci sono in televisione due persone che si baciano, che vogliono baciare, loro hanno il diritto di baciarsi, io ho il diritto di cambiare canale. Vabbè, perché lei cambia canale quando vede due che si baciano? Sì, perché non mi sembra un atteggiamento normale. Non è un atteggiamento normale baciarsi? No, per quanto riguarda i miei principi cristiani, no. E se lo vede per strada? Non obbligo le persone a non farlo. No, beh, certo, quello ci mancherebbe. Però le persone non possono imporre che io accetti davanti un comportamento del genere. Nel rispetto delle libertà reciproche. Cioè si volta dall'altra parte, dice lei, quando vede due che si baciano, cioè le fa schifo, le fa un po' schifo o no? E che personalmente non mi dà, ripeto, nessun tipo di atteggiamento. Cioè le fa un po' schifo, diciamo, due uomini che si... No, non è un atteggiamento che mi interessa, mi gira dall'altra parte. Si gira dall'altra parte. Non do fastidio a loro, non do fastidio a me. E se lei avesse un figlio omosessuale? Sicuramente cercherei innanzitutto di capire le ragioni. Sì. Certamente cercherei di farlo, di stargli vicino, perché comunque è un mio figlio. E riportarlo magari su quella che lei potrebbe chiamare la retta via, no? Rispetto le libertà, rispetterei anche le libertà sue. Bene, abbiamo fatto questo interrogatorio sull'omosessualità. Grazie. Però a Giuseppe. Scusi, prego. Le pongo un quesito. Sì, mi ponga un quesito. Ignorante e vorrei comprendere. No, perché ignorante? Che c'è? No, sono una persona ignorante. Ma perché ignorante? Non sono una persona istruita. Non si butti allora, giù. Vorrei sapere, questo voler per forza mettere in bocca alle persone delle risposte che non vengono condivise. Ma che vuol dire? Io non lo ritengo una limitazione della libertà di pensiero mia. E chi è che le ha messo in bocca qualcosa? Scusi. Ma siccome lei continuamente incalza per darmi delle risposte. Ma io faccio il giornalista. Faccio domande, faccio il giornalista, non faccio il panettiere. Cerca di impormi delle risposte. No, ma perché impone le mie risposte? Perché devo condividere le sue? E ma chi ha detto che deve condividere le mie? Scusi, Lipa. No, lei ha dato delle risposte serie, delle risposte, magari su alcune risposte io non sono d'accordo, su altre sì, ma non mi sembra che io ho voluto imporre delle... Ma un attimo incalzata, su. Ma è una cosa, mi sembra siamo nella normalità più assoluta. Certo. Ripa, la ringrazio, l'abbraccio forte qui da Milano, lei, signor Parenzo, l'abbraccio da Roma, viva i gay, viva l'omosessualità, o no? Si può dire, no? Ripa? Viva l'omosessualità. Pensavo fosse viva l'amore anche tra i gay, diciamo così. Viva l'amore anche tra i gay. Diciamo, se è una cosa che li appaga, sicuramente. Se è una cosa che li appaga, sicuramente. Si rivolga al presidente Vendola, dica: caro presidente Vendola, qui da Radio 24 te la stanno ascoltando. Mi scusi per questa cosa, ero in un momento di. Faccia un appello, non solo cartaceo, la lettera, ecco, una cosa vecchia. No, io l'ho già fatto. Mi faccia un appello radiofonico, così lo trasmettiamo. Ma io l'ho già fatto e ho detto che, siccome, ripeto, ho avuto un atteggiamento legato, come ho detto precedentemente, non voglio ripetere. Un momento di sfogo, di stizza. E dunque, caro Vendola, gli esseri umani, caro Vendola, ho sbagliato nel dire, nell'affermare delle cose che non penso nella maniera benissimo giusta, e ho chiesto scusa, lo ripeto, non ho motivo a non farlo. Caro Vendola, ti chiedo scusa, mi dica questa cosa qua, Ripa, mi faccio un regalo. Mi scusi, a tutte le persone che si sono pentite dal mio comportamento e al presidente Vendola in particolare. Dunque, caro Vendola, avendo voluto offenderlo. Caro Vendola, scusami. Caro Vendola, scusami, ho già detto, gliel'ho messo per iscritto, si figuri se abbia problemi a dirlo. Assolutamente, grazie, pubblicità. A lei. Eccoci. Eccoci, siamo qui, caro Parenzo, siamo tornati. Lotto, si lotta come leoni. Una si grande puntata hai messo in piedi, molto bene. Si lotta come leoni. 800240024. Abbiamo avuto ai nostri microfoni il signor. Già mi sono scordato come si chiama. Come si chiama? Tu te lo ricordi? Si chiama Ripa. Giuseppe Ripa, ex ormai assessore alla mobilità del comune di Lecce, che insomma è venuto, si è sottoposto al nostro il nostro fuoco incrociato di domande. Che vuoi dire? Cosa volevi dire? Avanti, su, sentiamo. No, perché il signor Cicchitto, sulla questione Cicchitto. Fabrizio Cicchitto, il capogruppo alla CA, Fabrizio Cicchitto, allora, che abbraccio forte, ha detto i controlli a tappeto sono inaccettabili e chiaramente ispirate a una concezione ideologica del controllo fiscale. Sì. Cicchitto, ma di che stai a parlare? Ma che stai a dire? Fabri! Rodolfo da Venezia, buonasera signor Rodolfo. Rodolfo De Benedetti, cioè. No, non è Rodolfo De Benedetti, è il signor Rodolfo da Venezia, un semplice cittadino che ha diritto di dire quello che vuole senza essere sbeffeggiato dal fatto di essere chiamato come Rodolfo De Benedetti, che non c'entra assolutamente nulla. Signor Rodolfo, buonasera. Buonasera, spero di non essere sbeffeggiato in effetti, però. No, per carità. Ma devo dire la verità che la trasmissione sta scadendo a un livello bassissimo. Sì, molto basso, effettivamente, caro Rodolfo. Perché lei parla sempre sopra chi diciamo deve fare una domanda, una considerazione, quindi mi permette. Ma lei l'ha già detta la considerazione, ha detto che non l'ho finita, non l'ha finita, sta continui. Per 30 secondi faccio la mia considerazione, ecco, stia zitto per 30 secondi, è una cosa insomma che un po' mi lascia, comunque è il primo giorno dopo le vacanze, lasciamo passare. Sì, dovrebbe essere un po' più tranquillo. Sì, ma infatti comunque, sono tranquillo, vada pure. Sinceramente la trasmissione sta diventando una trasmissione da avanti spettacolo. Oh, che bello, ma è proprio quello che volevo sentire io, Rodolfo. Ecco, allora, se quello è lo scopo, lei ci è riuscito perfettamente. Benissimo. Sapere che uno fa la pipì o non fa la pipì non credo che possa interessare tantissime persone. Oh, pensavo che a lei interessasse questo argomento, caro Rodolfo. È proprio sicuro che non le interessa. Non mi ha interessato, mi ha infastidito. Mi ha infastidito. Ma è proprio sicuro che non le interessa. Scusi un attimo. Non ascolterò più la sua trasmissione fin tanto che c'è. Benissimo, benissimo. Ecco, questa è la mia considerazione. Scusi, signor Rodolfo, scusi un attimo. Si fermi un secondo. Ma lei è proprio sicuro che non le interessa sapere il luogo e il modo in cui David Parenzo va a fare la pipì? Ma lei. Se vuol dirmi anche il colore della pipì, forse è ancora più interessante. Ma lei è davvero sicuro che non le interessa? Lei è davvero. Mi dica il colore della pipì, così facciamo anche un'analisi chimica. Com'era Parenzo, com'era? Ecco. Ma adesso non è che l'ho analizzata, cioè ero lì al telefono. Normale, lei dice normale, no? Mi hai chiesto, direttorissimo, dov'ero? Ti ho detto, ero un attimo, siedo a fare la pipì. Il radioascoltatore si è talmente evidentemente emozionato per questa cosa che ha deciso addirittura di telefonare, capito? Addirittura di telefonare. Signor Rodolfo, noi l'abbracciamo fortissimo, lei non se la deve prendere. Vi ringrazio della vostra benevolenza. Lei non se la deve prendere più di tanto per questa cosa. Ma no, è che me la prendo, dico, fate un po', considerate un po' che forse ci sono cose più interessanti da dire. Ma guardi che negli ultimi 20 abbiamo parlato solo di negli ultimi 20, scusi un attimo, sono stati 30 secondi della trasmissione, adesso abbia pazienza Rodolfo, noi l'ascoltiamo volentieri e per carità l'abbracciamo forte, siamo contenti che lei ci abbia chiamato, però adesso non esageriamo, è stata una cosa di 30 secondi, negli ultimi 20 minuti abbiamo disquisito insieme al signor Ripa, assessore di Lecce, di una cosa che oggi è finita su tutti i siti, su tutti i giornali, eccetera eccetera, alcune frasi pronunciate dal signor Ripa, omofobia eccetera eccetera, adesso non è che abbiamo parlato della pipì di Parenzo, non esageriamo, su. Ma io ho fatto la mia considerazione. Sì, va benissimo, per carità. Rodolfo, va bene. Grazie. D'accordo, grazie. Francesco ci chiama da Foggia, sempre dalla Puglia. Avanti popolo. Buonasera. Avanti popolo. Bello, ascoltatore. Dica. Non la sentiamo però, Francesco. Malinconia. Non ho capito, scusi. Quindi pazienza. No, la sento adesso. Sono un vostro ascoltatore affezionato. Sì. Dunque, con malinconia rispetto ai tempi di Berlusconi, ora siete un po' stonati perché con Monti che è così sobrio, così. Vabbè, sentiamo il traffico, poi ci ricolleghiamo con Francesco. Eccoci qui, 800240024. Ci sono due questioni che si pongono nelle ultime ore. Una lo scrive sul suo profilo Twitter il direttore di Repubblica e devo dire condivido stranamente Cosentino, scesa dalle auto blu ministeriali, la Lega cambia giudizio su corruzione e criminalità, è un option. Ed effettivamente nel passato credo la Lega abbia votato più o meno compatta sulla vicenda Cosentino, no? Negli altri voti che ci sono stati in giunta nel passato sulla vicenda, sì, delle... su Papa loro votarono a favore dell'arresto, se non sì, però male. È vero che su Cosentino ci sta questa provocazione del direttore di Repubblica Ziomaro, sì, quando dice scesa dalle auto blu ministeriali la Lega cambia giudizio su Cosentino, eccetera. Beh, anche perché però sarebbe stato di grande imbarazzo per l'ex ministro degli interni Maroni, che beh, ho capito, ma erano al governo insieme, non è che erano al governo, sì, separati, no, appunto, cioè, ma dico, sarebbe stato di grande imbarazzo. Dunque è giusto dire che è scesa dalle auto blu ministeriali la Lega, sì, cambia giudizio su questo, non c'è più perfettamente ragione, Ezio. Dopodiché un'altra vicenda riguarda invece Tanzi, Callisto Tanzi, poveretto. E allora, le manette a un uomo di 73 anni dimagrito di 25 kg, qui riprendo una cosa che ha scritto Daniele Bellasio del Sole 24 Ore, erano proprio necessarie? Bravo, secondo Bellasio, no. È vero che però in America, e ha ragione Bellasio dal punto di vista umano, è vero che in America il signor Benny Madoff, che ha preso poco la stessa età, sì, del signor Tanzi, è stato preso e buttato con gli schiavettoni in galera. È vero. Madoff, però ha ragione, umanamente è chiaro che dispiace vedere un uomo che poi sta. Però in altri paesi, tu dici, non si per reati che riguardano sempre il patrimonio, eccetera, eccetera. Sono la Corea del Nord. Reati finanziari non si fanno troppi problemi da questo punto di vista, sull'età, quantomeno sull'età. Sì. Bene. Allora, ci sono anche altre questioni. Per esempio, Catricalà, pacchetto liberalizzazioni per decreto entro il 20 gennaio. Questa è una cosa importante che riguarda anche i signori tassisti che ci stanno seguendo, Bravo, i signori tassisti. No, lo voglio dire non per andare contro i tassisti, perché allora pacchetto liberalizzazioni compresi evidentemente, ma non lo sappiamo con certezza, i taxi per decreto, dunque nemmeno disegno decreto entro il 20 gennaio. Però separare l'ENI e la SNAM non è una priorità, dice sempre Catricalà. Io ho cambiato opinione. Sì, su cioè, che secondo me non è un problema con la liberalizzazione dei taxi, secondo me. Elena da Teramo, buonasera. Non vado buonasera. Io mi trovo un po' in imbarazzo a telefonarvi, però non ho potuto resistere dopo l'intervista della signora Palombelli. Che ha detto di così strano la signora Palombelli? Che lei ha fatto una vacanza popolare. Attenzione, popolare l'ho detto io, lei ha detto sì, una vacanza in cui ci sono molti professionisti, in cui ho incontrato molti professionisti. Certo, però posso dire una cosa, io tra l'altro sono una professionista che non può fare una vacanza. Ho capito, sarà una professionista, come dire, ci sono professionisti e professionisti. Se lei consente di esprimere un parere, probabilmente. Prego Elena, sì, ho capito. Semplicemente che in un'epoca del genere... Sì. Lei fa benissimo ad andare alle Maldive o dove vuole, perché mi sembra che sia una sua... Ma ci mancherebbe altro. Visto che guadagna, può fare ciò che vuole. Però probabilmente in maniera più discreta, come doveva essere discreto probabilmente Berlusconi, devono essere discreti tutti. Ma non ho capito, lei professa il pauperismo? Non ho capito. No, io non professo questo, io professo semplicemente il rispetto della gente che ha delle necessità molto gravi, molto impellenti. Ho capito, ma che vuol dire? Che di fronte ad una persona che si chiama Rutelli, mi scusi, sa, non mi sembra che abbia mai lavorato nella sua vita, ha fatto solo il politico. Se lei mi sa dire qual è il lavoro di Rutelli, io la ringrazio. Ma cosa c'entra? Ha fatto politica ed è stato pagato per quello che ha fatto. Uno dice Andreotti non ha mai lavorato. Dice sì, vabbè, ha fatto politica. Probabilmente la figura di Andreotti è una figura un po' diversa. Io non ho capito una cosa. Qual è l'accusa? Rutelli. Qual è l'accusa? L'accusa è al fatto Rutelli che appartiene, diciamo, alla casta e non ha mai lavorato, oppure il fatto che è andato alle Maldive? Non ho capito le due cose insieme. L'accusa sicuramente è che Rutelli non ha mai lavorato. Lei dice non ha mai lavorato, ha fatto sempre politica. Per alcuni purtroppo non ha mai lavorato. Secondo lei è un grave delitto, per altri invece è una cosa che può succedere nella vita, che a un certo punto uno si mette a fare attività politica, prima nel Partito Radicale, poi nei Verdi e poi successivamente in altre cose. Secondo lei invece uno così non ha mai lavorato, va bene, ho capito. Poi io ritengo che non abbia mai lavorato. Va bene, poi l'altra accusa qual è? Ritengo che coloro i quali fanno un tipo di vita superiore alla media, perché giustamente se lo possono consentire, con un minimo di discrezione, non mi sembra di chiedere una cosa così importante. Scusi, ma la discrezione secondo lei... Di farlo sapere. Guardi, come farlo sapere? Devo andare incognito, scusi. In queste situazioni, sa? Ma quando noi chiediamo che la casta si abbassi lo stipendio, mentre la casta lo stipendio non se l'è mai abbassato, quando tutti quanti dobbiamo pagare di più, mentre loro non pagano niente di più. Mi scusi, sa, ma è la verità? Sì, però scusi, io adesso non vorrei mettere tutto insieme. Non bisogna mettere tutto insieme. Allora, io no, vorrei capire una cosa: qual è lo sbaglio? Qual è lo sbaglio? Qual è lo sbaglio che ha commesso la coppia Rutelli-Palombelli a recarsi alle Maldive? Purtroppo devo dire la verità: lo sbaglio non è nella coppia, è nelle frasi che ha detto la signora, cioè, nel senso che mi hanno irritata profondamente. Cioè, che spendere $1,000 al giorno a coppia è una cosa da popolare. È una cosa quasi normale. Per lei, sicuramente lo è. E io su questo. Ma non ha detto che è normale. No, non ha detto che è normale. Ha detto che è una cosa alla portata di molte persone. Alla portata di tanti. Di molti professionisti, che è vero, mica solo. Non è questo l'approccio giusto. Che anche questo va modificato come approccio nel confronto delle persone. Mi sembra una cosa abbastanza corretta. Poi, cioè, lei non ci ha trovato, lei non ci ha trovato anche in quelle frasi, penso che l'abbiano colpita anche le frasi della signora Palombelli, immagino, cara signora Elena, credo che lei sia rimasta colpita anche da una frase che ha pronunciato alla fine: beh, è stata una vacanza da favola, favolosa, è stato un mare. Mi fa piacere per lei, dunque, mi sono lieta che l'abbia apprezzato e ne sono felicissima, spero che ci vada al più presto. Però lei si mette nei panni degli altri. Ho capito, però non è che stiamo a fare l'invidia sociale qui. No, signor Cruciani, faccia attenzione, perché questo può accadere. La gente comincia a stufarsi. Ma di cosa? Ma non in faccia alla gente. Ho capito, però non è che bisogna professare, ripeto, a me non fanno impazzire quelli che professano il pauperismo per tutti. Di silenzio, secondo me, certe ma come silenzio? Che devono fare? Se è stata criticata, poteva non telefonare. Semplice, è stata criticata, il silenzio è probabilmente la cosa migliore. Ma perché il silenzio? Uno se non si sente colpevole di nulla, chiama e. Ma vabbè, guardi, non stiamo parlando di colpevolezza, no. Magari si possa parlare di una cosa del genere. Stiamo parlando semplicemente di una persona che a mio avviso non ha avuto un comportamento moralmente corretto. Bene, grazie signora Elena che ci ha chiamato da Teramo. Abbiamo con noi dalla sua casa di Grosseto, dalla sua casa di campagna di Grosseto, dove sta cenando, e ci scusiamo per il ritardo, ma siamo stati presi un po' dalle vicende di Lecce, se l'assessore che si è dimesso dopo quelle frasi gay, Francesco Pancio Pardi, senatore dell'Italia dei Valori, come sta? Bene, bene. Lei è mandato alle Maldive? No, non sono mai andato, penso che se uno non si sbriga ad andarci tra un po' saranno seppellite dall'innalzamento degli oceani. Lei dice, dunque, no, addirittura, ma le piacerebbe? Io non conto di, no, diciamo così, non conto di andare alle Maldive. E perché? Come mai? Una bella vacanza al mare, un posto favoloso. Sì, no, ma diciamo faccio le vacanze in un altro modo. In un altro modo, cioè. Ma che mare c'è andare alle Maldive? Cioè, una cosa da cafoni, secondo lei, un po' da cafoni, eh? No, non è da cafoni, insomma, diciamo, con l'atmosfera, no, non ho sentito tutta la discussione precedente, però insomma mi sembra che la signora di prima abbia qualche argomento a proprio favore, nel senso che non ne farei una questione di moralismo, ma di opportunità. Allora, perché no, la discussione è nata da questo, senatore Pardi. Noi abbiamo fatto qualche battuta, qualche considerazione su queste vacanze di Fini, Schifani, Rutelli, Casini e altri ancora alle Maldive. Tutti alle Maldive, come lei ha potuto. Hanno rifatto un ufficio di presidenza laggiù. Esatto, alle Maldive. Ha chiamato la signora Barbara Palombelli, consorte di Francesco Rutelli, per attaccare in realtà il Corriere della Sera, che si era comportato secondo lei male perché aveva dato notizie inesatte sui costi di questa vacanza, precisando che aveva dati più alti. No, aveva dati molto più alti, molto più alti. Dunque secondo lei non era corretto, bisognava precisare, e poi comunque dicendo che uno vuole andare, qual è il problema di andare alle Maldive? Non c'è nessun tipo di problema, è una vacanza alla portata di molte persone. Molti professionisti ha detto che è vero. È vero, però Pardi, che le Maldive lo ha scritto. Molti professionisti. Non è proprio una vacanza di queste qua, può essere naturalmente. Ma perché se un grande avvocato di successo va alle Maldive nessuno rompe i coglioni, se invece ci va una professionista come Barbara Palombelli che dà 30 anni. No, il problema non è la Palombelli, è il marito. Ma ho capito, tutto sta oggi semplicemente nel fatto di essere o non essere dei personaggi pubblici. Sì. Oggi, come oggi, la cosa potrà essere discutibilissima, per carità, però oggi se uno è un personaggio pubblico, sì, non c'è niente da affari cade sotto lo strale della critica molteplice. Sì. Quindi ne deve tenere, mettiamola così, ne deve tenere conto. Se poi tenendone conto ci va lo stesso, pazienza, nessuno può crocifiggere nessuno. Qualcuno però ha fatto notare, Pardi, che lo stesso Casini, lo stesso forse Rutelli o Schifani, eccetera, qualche minuto prima parlavano di sacrifici e dopo erano sulla scaletta dell'aereo che li portava alle Maldive. Infatti questo stona, obiettivamente stona, anche se magari esistono vacanze molto più costose che loro non hanno fatto, però resta il fatto che di fronte al senso comune dell'opinione pubblica che sta a guardare e che è preda oramai non del pauperismo per tutti, come diceva lei prima, ma del pauperismo per molti coatto, nel senso che molti oggi sono impoveriti, sì, molti ceti medio-bassi e medi sono impoveriti. Era meglio se stavano a Grosseto come ha fatto lei? Insomma, boh, non lo so, io non voglio dare consigli a nessuno, però insomma non c'è nulla da fare. Uno si, il personaggio pubblico si espone di fronte a questo tipo di cose. La vacanza alle Maldive resta un nell'immaginario, nell'immaginario. Se poi sapendolo lo fa lo stesso, pace, si prenda le critiche, non c'è scampo. Su questo però devo dire la verità, io che spesso non sono d'accordo con quanto dice il professor Pardi, però su questo, caro Parenzo, sono in disaccordo con te. Cioè c'è una questione anche che riguarda quello che viene fuori, l'immagine, tutto. Cioè in questo periodo farsi vedere le Maldive non va bene per un politico, no? Ma non bisogna essere ipocriti però, Pardi, scusi, basta essere delle persone per bene, delle persone serie. Vabbè, questo che c'è, nessuno ha detto. Mi incuriosisce Parenzo che fa questa parte. Vedi. Vabbè, lui è un bastian contrario. È il contrario. No! Voi due siete tutti e due bastian contrari, quindi giocate il ruolo del bastian contrario. Ma non gioco niente, dico seriamente. Uno non si deve, se li ha guadagnati, mentre il caso... Ma non fa l'idraulico, sì, Rutelli, non fanno gli idraulici. Li ha guadagnati, andato e non ha commesso nessun crimine. No, ma Pardi vuole dire... nessuno dice che hanno commesso dei reati, ci mancherebbe altro, o anche commesso delle irregolarità. È semplice una questione di buon gusto e di, diciamo così, di sapere che si è il personaggio pubblico, se volendo o non volendo, sempre, è comunque esposto alla critica pubblica. Quindi la critica pubblica può anche essere criticabilissima, perché per carità, Stendhal diceva che non sopportava la democrazia perché non voleva sottoporre la propria vita al giudizio del proprio droghiere. Era un'idea un po' aristocratica della politica. Però il problema è che il droghiere esprime un'opinione, e non solo il droghiere, anche non c'è dubbio. C'è la borsa, torniamo subito con il professor Pancio Pardi, che però ci deve a questo punto dire cosa mangia stasera a cena lì a Grosseto. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara su Radio 24, in collegamento da Grosseto il professor Francesco Pancio Pardi, esponente al Senato dell'Italia dei Valori. Che sta mangiando? Non è frivolo rispondere a una domanda così. Se voi mi garantite che non è frivolo, ve lo dico. Noi glielo possiamo garantire nella maniera più assoluta. Non vorrei che poi qualche signora dicesse: ah, ma voi fate domande frivole ai senatori. Comunque io vi rispondo, perché tanto ho mangiato pittule col cavolo lesso. Sapete cosa sono le pittule? Lo sa Parenzo, io non sono ignorante. Delle coccole di farina lievitata fritte, come si fanno anche nelle friggitorie, sì, solo con dentro dei pezzetti di cavolo lesso. E poi un semplicissimo petto di pollo schiacciato con rosmarino sulla brace. Sono cose di Maremma sono cose di alto livello qua. Siamo al top, pollo. Qui siamo al petto top. Pollo. Non è il caviale. Qui siamo al top. Sì, qui siamo al top. Comunque è la cucina di patroni Griffi. Questo qui siamo al top della cucina maremmana, al top. Scusa, però c'è un taxi? Che dici, Parenzo, il taxi? No, ho chiesto un taxi agli amici della 7, ho detto scusa per cortesia, cara, come si chiama? Lei? Edda, cara Edda, che non è parente di Edda Ciano. Ma perché dovrebbe essere parente di Edda Ciano? Un po' di storia anche la zanzara. Vabbè, allora l'ho capito. Allora ho chiesto semplicemente un taxi. Se è possibile. Ma noi possiamo sentire in sottofondo tu che chiedi il taxi, tu che vai a fare la pipì, tu che fai questo, tu che fai questo. Chiudo, io non ho capito la critica, e poi non la faccio più. Se non mi faccio trovare per 2 minuti, dove sei? ti rispondo, chiama quello, diciamo, da fare la pipì, non può dirlo. Chiamo un taxi in... come dire, in diretta, mi dici ma non posso sentirti, che devo fare? No, hai ragione, Catricalà sta intervenendo su tutto, bisogna intervenire, scusate il gioco di parole, sulla governance e il canone della RAI, il canone non so cosa significa, comunque sai che Monti ha detto una cosa sulla RAI ed è successo l'inferno, come se un governo non potesse intervenire sulla RAI, mentre è assolutamente nel suo diritto di fare tutte le proposte possibili sulla RAI, c'è stata un'accusa però del centro... Però non si è capito che proposte ha fatto. No, infatti non si è capito nulla, infatti lei ha ragione su questo, nessuno neanche lo sa, neanche Monti probabilmente certo. Neanche Monti lo sa, cioè... l'ha detto lì così, poi dove no, tutti dicono da oramai di moda da un po' di tempo a questa parte parlare di un consiglio d'amministrazione ristrettissimo con un amministratore delegato, come se quella fosse la soluzione fondamentale. Sono d'accordo con lei, non è quella la soluzione, in realtà un amministratore delegato poi nominato da chi? Poi nominato da chi? Potrebbe essere un esecutore del potere politico, perfetto. Poi potrebbe, scusi, oltre a questo, che ma nominato sempre poi da chi? Cioè, ci deve essere sempre qualcuno che lo nomina, no? Glielo posso dire, Cruciani, la cosa fondamentale è che nel Consiglio d'amministrazione, io ho fatto questa proposta, io l'ho messa agli atti, quindi è una proposta elementare, banalissima, da terza media. Cioè? Il Consiglio d'amministrazione deve essere formato da un numero di persone in cui... quelle di nomina parlamentare sono la rigorosa minoranza. Bravo. E gli altri da chi devono essere nominati, scusi? Gli altri possono essere scelti, lì bisogna decidere. Apriamo la discussione, da chi possono essere nominati? Lo so, però possono essere nominati, per esempio, dall'Accademia degli Incei. E chi è che nomina quelli dall'Accademia degli Incei? Cioè, là sempre si torna. No, non tutti, per carità, tutti. Addirittura l'Accademia degli Incei. Una platea pluralistica dove ci sono vari soggetti, diciamo, non immediatamente riconducibili alla politica, che nominano una parte dei consiglieri d'amministrazione, e il Parlamento ne nomina una minoranza. Ma non sarebbe meglio privatizzare, che sarebbe la cosa più seria, non dico tutto, ma due reti su tre, non sarebbe meglio farla finita? Io diciamo la battaglia è fatta di due scalini. Il primo scalino è il tentativo di far ritornare la RAI a essere un vero servizio pubblico, cosa che negli ultimi 20 anni è stato il contrario, perché è stato il servizio privato a vantaggio del Presidente del Consiglio. Anche per la sinistra. Mentre se invece, io lo dico per pura ipotesi, se veramente ci fosse la sincerità di volere un pluralismo diverso basato sulla vendita della RAI, allora è elementare, tutti devono vendere. Berlusconi compreso, ma che c'entra Berlusconi adesso? Non mi vorrete dire che domani l'altro c'è la RAI venduta a tre soggetti diversi e Berlusconi mantiene le sue tre reti? Questo più il possesso delle reti digitali, più la carta stampata, più le Inaudi, più la Mondadori, eccetera. Siamo chiari, se si deve parlare di privatizzazione, tutti devono privatizzare. Beh, scusi, Berlusconi è già privato, però. Ho capito, lei dice. La regola della privatizzazione è molto semplice: parità di condizioni. Al massimo una per tutti o due per tutti, insomma. Al massimo una per tutti o due per tutti. Senta un attimo, Pardi, ma torniamo un po' alle cose di strettissima attualità che riguardano, mi dica una cosa che le piace di Monti e una proprio che non sopporta. Quello che mi piace di Monti è che non è Berlusconi. Vabbè, solo questo, ma mi pare poco. Insomma, non è poco, perché abbiamo avuto un fanfarone paraballe al governo che ha lavorato solo per se stesso, E invece adesso? E ha pure male, perché non è, grazie al cielo gli siamo riusciti perfino a impedirgli di fare quello che voleva fare. Però ci ha bloccato per 20 anni, cioè l'Italia è stata ferma per 20 anni. Dunque la cosa migliore di Monti è questa, la cosa peggiore? La cosa peggiore è che, diciamo così, non la peggiore ancora non la vedo, però diciamo temo, cioè vorrei che lui non facesse, diciamo, troppo poco per la dimensione della... della equità delle manovre, della tassazione degli alti redditi. Le ricordo una cosa, Cruciani, nella Costituzione c'è l'articolo 53 che dice che l'imposizione fiscale è progressiva. Questo vuol dire una cosa banalissima, che quanto meno uno ha, tanto meno paga, più uno ha, tanto più ma paga. Ma così è però. Ora è chiarissimo che negli ultimi 20 anni l'articolo 53 è l'articolo meno applicato di tutta la Costituzione. Ma questo lei dice per l'evasione? Sì, ma non solo per l'evasione, anche per il criterio dell'imposizione, che non è progressiva ma è regressiva. Scusi un attimo, però Pardi, io le voglio chiedere una cosa. Adesso, al di là del fatto della... lei dice a me non piace Monti perché non ha ancora fatto abbastanza per quello che riguarda l'equità, eccetera. No, però io spero che faccia. Lei spera che faccia. Il mio atteggiamento non è di... diciamo così, di preclusione. Dunque lei non dice come, lei non dice come Di Pietro che io insomma, non ho una preclusione ma gli ha spiegato questo a Di Pietro o no? Che invece è ferocemente contro il signor. Beh, no, abbiamo discusso, però anche lui non è vero che è così ferocemente. Beh, per esempio, sulla fase 2 ha detto recentemente che aspettiamo, sì. Che aspettiamo, vediamo cosa farà, eccetera. Mi sembra un atteggiamento laico. Sì, sì, però insomma se, siamo, se io le prendo tutte le frasi, tutte le frasi che ha detto Di Pietro negli ultimi mesi, per favore non le prenda. Perché? No, perché si entra le fa in una discussione chiusa. Le fa male, le fa male, le fa male un po'. No, ma insomma comunque poi ognuno ma è vero che lei potrebbe uscire dall'Italia dei Valori? No, no, per carità, non se ne parla nemmeno. Io sono stato eletto nell'Italia dei Valori e resto nell'Italia dei Valori e penso che abbia un senso perché i partiti sono comunità in cui si discute. Io non vorrei che passasse il principio che siccome nel nostro partito si sta discutendo, chi discute è pronto a uscire. No, chi discute è pronto a restare per discutere. E se lei dovesse proporre. In questo momento lei è minoranza però nell'Italia dei Valori. Ma io non ho il problema di essere. Se ne rende conto o no? Se ne rende conto o no che è minoranza? No. Beh, insomma, è minoranza. Lei ha un atteggiamento molto. È sempre stata in minoranza quella. No. Sì, beh, però diciamo il mio problema comunque non è di essere minoranza perché io non aspiro alla leadership del partito, per cui non è, se diciamo se io fossi uno un quarantenne rampante che punta alla direzione del partito potreste dire solo in minoranza. Cioè diciamo la verità, Pardi, se lei fosse stato in Di Pietro dopo l'uscita di Berlusconi, dopo l'inizio, avrebbe dato più chance a Monti, questa è la realtà, avrebbe dato un po' più di credito a Monti, invece Di Pietro proprio ce l'ha, è passato subito all'attacco, forse troppo velocemente. No, però per esempio abbiamo votato la fiducia all'inizio, appunto, quindi questo è un segno buono. Beh sì, poi io sto dicendo la cosa fondamentale è quella l'abbiamo fatta. Beh, abbiamo però votato la fiducia all'inizio, poi purtroppo il governo ha fatto una manovra molto ingiusta, perché questo obiettivamente lo dovete riconoscere tutti, non ha fatto una manovra. Ora aspetta, ora sono contento per esempio a vedere queste iniziative sull'evasione fiscale che mi sembrano giustissime, magari correggono il tiro, però la manovra non era giusta, allora era anche giusto dire che non era giusta. Scusa, però la differenza tra lei e Di Pietro, il suo dovere l'ha fatto, ha votato la fiducia, sì, però e io Pardi trovo che quello sia stato un atto fondamentale. Però scusi un attimo, tra lei e Di Pietro oggi qual è la differenza? Che lei la differenza è che lui è il leader del partito e io sono un senatore, diciamo così, tra l'altro. Che lei è un po' più responsabile, adesso so che questa parola è un po' usurata. No, la parola responsabile la rifiuto perché purtroppo suona male, perché i responsabili sono gli irresponsabili che hanno dato la fiducia il 14 dicembre del 2010 a Berlusconi, quindi preferisco essere irresponsabile io piuttosto che responsabile. Cioè le fa vomitare la parola responsabile. Sì, la trovo molto sgradevole, soprattutto perché ha cambiato completamente il senso della parola, cioè è come siamo in una fase di destrutturazione del linguaggio, se quelli sono responsabili allora io preferisco essere irresponsabile. Scusi un attimo però Pardi, voglio dire, qui c'è una situazione molto chiara, all'interno dell'Italia dei Valori c'è la posizione di Pietro che è condivisa dalla stragrande maggioranza del partito, c'è il governo Monti, un governo che potrebbe spazzare via l'alleanza tra l'altro tra il Partito Democratico, l'Italia dei Valori e SEL, inoltre prende dei provvedimenti iniqui, non è stato eletto dai cittadini, bisogna mandare alle elezioni. Ma non si poteva andare alle elezioni. D'accordo, questa qua è la posizione diciamo della stragrande maggioranza. Del non si poteva andare alle elezioni, cioè nessuno può sostenere davvero. No, d'accordo, però questa qua è la posizione. Uno può dirlo. Perché diciamo così, purtroppo la politica è fatta di un sbaglia Di Pietro, Pardi, Di Pietro in cosa sbaglia in questa sua polemica? Secondo me non sbaglia nulla. Una cosa secondo che sbaglia Di Pietro. No, secondo me invece in questo momento non sbaglia, c'è un atteggiamento che secondo me è utile a mantenere un rapporto tra l'opinione pubblica. Questo nella fase 2, ma invece lui, vede, il problema è questo, Cruciani, se lui dicesse va tutto bene, madame la Marchesa, il rapporto tra tutta l'opinione pubblica povera e non abbiente, che oggi sta pagando il grosso del prezzo della crisi, e questa possibilità di riscatto dal malgoverno Berlusconi, cederebbe, non si verificherebbe. Senta Pardi, ma Malinconico e Patroni Griffi devono andare a casa? Certo, quello che ho letto di Malinconico e Patroni Griffi non è incoraggiante, è una delle cose che fanno pensare che anche il governo Monti sarebbe molto perfettibile. Bene, buona cena, se ancora deve finire, forse ha già chiuso da questo punto di vista, oppure c'è uno spuntino finale? No, devo tornare. deve tornare. Grazie, buona serata. Anche una mozzarellina di bufala che sono buone. No, la mozzarellina di bufala non c'entra nulla. Ma non c'entra nulla, Parenzo, la mozzarella no, di bufala. Ma di bufala grossetana, di bufala mamma grossetana. Mia, mamma mia. No, diciamo è fuori causa questa sera. Traffico, grazie. Eccoci, volata finale di questa prima puntata del 2012 della Zanzara, grande volata fino ad agosto, caro Parenzo, preparati, mi hai rimesso, ero molto molto molto malinconico in questo momento. Sì, benissimo, vediamo se c'è qualche battaglia qui, Attilio da Varese, buonasera, poi Valerio da Milano, buonasera. Claudio da Roma, Renzo da Treviso. Attilio Bolzoni, ottimo. Attilio Bolzoni che non c'entra niente, abita a Palermo tra l'altro, non c'entra nulla, è una giornalista di Repubblica, ma sempre fissato con questi giornalisti. Buonasera signora Custode, sta parlando. Scusi, signora? Custode, le ho detto. Chi è Custode? Lei. Io sono il Custode? Beh, sì. Un mestiere nobilissimo. La sua trasmissione è praticamente come un pettegolezzo da ringhiera. Beh, benissimo, magari fosse buono. Così. Buono. No, è così, non magari, se ci tiene. Sì, ci tengo moltissimo. Lei dice che tutti devono dire la propria opinione. E vada. Noi abbiamo avuto per 15 giorni il suo collega che faceva una trasmissione con un dibattito. È arrivato lei e ha cominciato ad essere ripetitivo, petulante, pettegolo. Quindi per me è una custode lei. Un custode? Ma perché ce l'ha tanto con non è che i custodi... Che ha detto a proposito dei... Ma non è che i custodi no, non fa... non ci tenevo a dirlo. No, ma i custodi... Non era intenzionale. Io ho capito, se a sua insaputa ha telefonato... Ha preso la briga di ascoltare, di telefonare. Scusi, signor Attilio, io vedo, i custodi non è che fanno solo pettegolezzo, fanno anche i custodi, cioè fanno anche il loro mestiere, cioè fanno le... Sì, ma sono caratteristici. Sono caratteristici. È proprio classico. Una volta... Lei mi è un po' snob, però. Lei mi è un po' snob. Dove? Lei mi è un po' snob. Un po' tanto. Io sono molto snob. Insomma, su questo non c'erano dubbi. Non è carino. No, sono molto snob. Ascolti, a Milano c'erano le case da ringhiera. Sì, lo so benissimo, abito a Milano. Le ringhiere erano lunghe, tutte le donne si fermavano, si soffermavano in ringhiera spettegolare. Voi non fate altro che essere ripetitivi. Sì. Vabbè, gli ha fatto un mazzo così a quel Cristo là, gli ha detto 4 volte, va bene, ho sbagliato, va bene. Ma lei i culattoni le piacciono, ma lei li vuole, ma lei ci tiene. Ma come li ha chiamati? Fosse omosessuale. Per quelle cose, dai. Culattoni li ha chiamati. Sì, si chiamano io, così. La parola io l'abbiamo mai si usata. Chiamano così i culattoni? Sì. Sì? Ha mai sentito il... Sì. L'ho sentita, sì, come parola, l'ho sentita, la conosco. Si adopera normalmente. Sì, beh, insomma, è normalmente. Le persone maleducate come Attilio da Varese, abitualmente. No, io sono di Milano, sono nella provincia di Varese. Ecco, allora, le persone volgari come Attilio della provincia di Milano usano la parola culattoni. Le persone ben educate, non politicamente corrette, dicono omosessuali. Comunque, diciamo se gli piace così... Diciamo che è un termine arcaico. Se le piace così... Se le piace così... Culturale. Se le piace così... Se le piace così... Se le piace così... Ma le piacciono i culattoni a lei? Dammati, questa è la domanda tipica che mi sarei aspettato da lei. Vede perché gli dico che è la signora Custode? Sì. Vede? È la domanda tipica che mi sarei aspettato. Faccia sentire cosa dice anche Porec. Cosa dice Porec? Chi è Porec? Sarebbe Parenzo. Parenzo. È Porec in Istria. Si chiama Porec, la città di Parenzo in Istria. C'è una città in Istria che si chiama Parenzo, che si fa Porec. Quindi è acculturato. È acculturato il signor Porec a proposito di... Il signor Attilio è acculturato. Io sono assolutamente a favore della libertà sessuale, sono a favore dei diritti delle coppie. Ma rispondi anche seriamente, scusa, non ho capito. E che devo fare? Mi chiede e rispondo a questo signore, a questo tal Attilio, questa persona che dice di essere Attilio. Sono l'Attilio, tal Attilio, io sono l'Attilio poi, e le ha volte sono l'Attilio, e chi se ne frega, io sono l'Attilio, dice, va bene. Comunque Attilio, se le piace così, se le piace molto così. Molto simpatico sto Attilio. No, io preferirei invece che la trasmissione prendesse una piega un po' meno pettegola, ognuno... e soprattutto non petulante, perché le cose quando diventano troppo lunghe diventano serpenti, però... si attorcigliano attorno, ma su questo le non c'è cose dubbio. Non devono essere prolungate a iosa per tenere in piedi il discorso, si terminano, si chiudono, bene, grazie di questa lezione Attilio, la ringrazio, l'abbraccio fortissimo e buonanotte. Franco da Padova. Pronto? Signor Franco, buonasera. Sì, buonasera signor Cucciani, buonasera signor Parenzo. Sì, adesso. Niente, ormai è stato detto tutto per quello per cui avevo intenzione di intervenire. Ma che è stato detto? Non è stato detto niente, Franco, dica. Sì, no, è stato detto di tutto e di più. più per quanto riguarda Vendola. E ma non abbiamo detto niente per fortuna su Vendola. No, cioè io non riesco a capire, no. Perché cioè, se io sono omosessuale, sì, e uno mi dice che sei una femminuccia, perché mi devo sentire offeso? Vabbè, Franco, lei è un cretino, cioè, cioè questa è la realtà. Sarò un cretino, ma mi spieghi perché il signor Vendola si deve sentire offeso se l'ha, ha dichiarato il signor Vendola di essere omosessuale? Beh, l'ha certo dichiarato, che l'ha dichiarato. Cioè, allora perché si deve sentire offeso? Scusi, ma quando uno dice ad un'altra persona sei una signorina, cioè, non è che lo dice in maniera seria, lo dice... Lo dice... È la verità. Ma non è la verità, è omosessuale, non è una signorina. Vabbè. Sarà allora si è sentito offeso perché appunto lui è omosessuale attivo, non è passivo. Oh mamma, non lo so. Il signor Franco, ma lei, il signor... caro Franco, io sono pratico, cioè, io la vedo così. Dopo, il signor Franco, caro Franco, Cruciani l'ha definita un cretino. Io aggiungo un cretino patentato. Vabbè, io so, vabbè, io per carità, Parenzo, io non mi offendo, perché ognuno... No, ma le voglio anche bene, perché è di Padova, quindi le voglio carità, bene. Ma per carità, per no, carità, ma le voglio veramente bene. Dire. A Pasqua voglio andare una settimana con lei in vacanza. Ma però, perché in vacanza? Venga, venga, la ospito a casa mia, tanto ma per carità di Dio. È lì da Padova, quindi siamo anche vicini. Però voglio dire, non riesco a capire perché si sentono offesi. E se non riesce a capire, se non riesce a capire, c'è un problema oggettivamente. C'è un problema. C'è un problema, sì, perché allora la verità fa male. E perché la verità fa male? Ma perché la verità fa male? Scusi, se io mi devo sentire offeso, perché lei mi dice tu sei brutto, no? Cioè, se io sono effettivamente brutto. Ma se lei non riesce a capire, se lei non riesce a capire che se un signore dice signorina a Vendola lo dice per offenderlo, certo, detto sì, questo, certo. Poi non è una tragedia, cioè non è che stiamo parlando della fine del mondo. Qua la stiamo mettendo in una forse troppo nella. Vabbè, Franco, nella la ringrazio. C'è il Catricalà shock, dunque, entro 10 giorni, cioè entro il 20, decreto a tappeto sulle liberalizzazioni. Aspettiamo. Renzo da Treviso, Renzo, il signor Renzo. Buonasera, sì, veloce perché stiamo per chiudere. Sì, no, io a prescindere da tutti questi discorsi di vacanze, culattoni o non culattoni, quelle cose là. Non è che abbiamo parlato solo di vacanze e di culattoni. Ho capito. Stavo facendo una mente locale, cosa si potrebbe fare per quest'Italia per migliorare. Questo ha fatto un brainstorming. No, che ha fatto? Sì, beh, una cosa nella mia ignoranza. Sì. Allora, stavo pensando, si potrebbe vendere qualche opera, visto considerato che... Opera che vuol dire, scusi, vendere qualche opera? No, opere immobili, ci sono proprio quadri che non verranno mai esposti. Che vuol dire, vendere i quadri? Per salvare l'Italia bisognerebbe vendere i quadri? Quello, ci sono quadri che non verranno mai esposti. Oggettivamente, capisco che a Treviso... Non verranno mai esposti queste cose qua, non verranno mai... Valerio da Milano, Valerio da Milano. Sì, buonasera. Vada. Semplicemente un rapporto che era questo... io avevo la barca a Porto Venere, sì. Ogni giorno arrivavano a controllare tutto quanto, sì. Cosa ho preso? Ho preso la barca e l'ho portata in Francia, sì. I signori che vanno a Cortina faranno la stessa cosa. Perché l'ha portata in Francia lei, scusi? Perché in Francia c'erano tutti i controlli che c'erano in Italia. Ma scusi, ma se lei era una persona... E è tutto in regola, ma lei capisce che se sei anche in regola e sei a prendere il sole ti vengono a controllare sei volte dopo un po' giorno, ti rompi i coglioni, lei dice. Dopo un po', bravo, ti rompi e allora... Valerio, la richiamo domani, così mi spiega tutto bene. Devo chiudere per questa sera. L'abbraccio e la chiamo domani, sempre alla Zanzara 18:30. Ciao. Ciao Cruciani, ciao. Per alcuni versi è anche una presa in giro, no? Sì. Direttorissimo. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.